E andiamo anche con puoi startare anche le dirette podcast. Allora, benvenuti amici di Facebook e del Benvenuti. podcast e al 18° episodio di Unstructured Heroes, dove giochiamo appunto a Urban Heroes. E questo episodio si chiama Leggende dal passato. Giusto? Boh, sì. Boh. Cioè, in E realtà avevo volevo dato i chiamarlo migliori Le giochi grotte di del film. Chauvet, ma vi siete incazzati. Allora, adesso ci vedete pochi, ma poi ci sono io, Andrea Giacomo Vecchi, Enrico Cattabriga, Francesco Arcidiacono. Siamo in attesa di Giulio Bosi e forse più tardi, forse, un ospite a sorpresa. No, E invece da Marsiglia, no, non no, è Emma. E salutiamo. invece da Marsiglia salutiamo il master sceneggiatore Edoardo Saladini. Sceneggiatore. Sceneggiatore, sceneggiatore. Sceneggiatore. E senza ulteriore indugio, Non lo so. proviamo a vedere se questa cosa qua, che stavo provando per farvi vedere la sigla su Facebook, funziona oppure probabilmente no. I was little, used to Ah, be vedi? Fa mad. merda. E vai! Rescue my friends, burning Non lo down so the perché. streets. No one would ever Questa Miami è arrivata oggi, mi piace. Costumes Non ti fade sta black. allarme. Eh? Non ti sta allarme. No, è preso apposta la mia. There we go. Oh, è partito cut! Un po' di SEO. Ma perché? È cresciuto anche là, clamorosamente. Solo l'audio. Va bene, come al solito, allora non è cambiato niente. Non ce la faremo mai a farvi vedere la sigla com'è. Mai. Scrubbies. Non ce la faremo mai. Tra l'altro, come andiamo? Figo a caso, no, per ora Sì, boh, era andata finiranno. prima alla fine, poi Sì, di esatto, no. totalmente a caso. Bene, va bene, va bene, va bene. Non l'avete visto molto. Beh, voi del podcast non è cambiato assolutamente nulla. Ma è proprio in direttissima. Che vuol dire in direttissima? Cioè, di solito era tipo un po' scazzato. No, Invece, vabbè, se questo faccio è là. così. No, questo è là, dovresti guardare qua. Questo è quello che vedi tu e Hobbs. Però se vedi qua va abbastanza bene. Quello invece è Vediamo. Locke. Questo è su. No. Grazie per questa citazione filosofica, Arci. Allora, prima di iniziare, vi ricordiamo che ci potete C'è seguire. Catta che balla dietro. Voglio vedere È quanto lagga. scattoso, è scattoso. No, non è No, scattoso. vada Dio. Va da Dio, certo, perché sono io un genio. Dopo tre volte che andavate in merda, ho deciso di metterci le mani. Va bene. Vi ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Tycoons and Dragons e anche imparzialmente su quella RGDR. Sul blog, è inutile che continui a spingermi la sedia addosso, Arci. Sono Sul appoggiato. blog rgdr.wordpress.com e in palestra da Arci. No, scherzo. Potresti sponsorizzarci però, Arci. Ci potete seguire anche Sponsorizzarci. dalla scorsa volta sul canale YouTube di RIGDR, dove abbiamo caricato l'episodio 17, che è esattamente quello che avete visto su Facebook. Quindi quello che vedrete oggi su Facebook, se siete dei follower seri, lo potrete vedere dopo anche su YouTube. Salutiamo la Polizia di Stato che ci sta Ma lo potete seguendo. vedere anche su pagina di Tycoons & Dragons, quindi dipende, insomma. Però come vi gira lo potete vedere, lo potrete Sicurezza, guardatelo vedere. da entrambe le Quindi parti. guardate da entrambe le parti per farci fare più visualizzazioni. E a Certo. parte questo, seguiteci anche ovviamente sul podcast, che è quello di RGDR, dove ci Vabbè, sono fammi tutte le avventure sì. possibili di Urban Heroes e varie robe. Siamo ancora in attesa di Giulio, ma direi di non indugiare troppo Andare a e di... prendere la birra. No, la birra non è assolutamente fredda, Catta, l'ho messa in L'hai frigo. messa in freezer? Ah, in freezer la potevo mettere, adesso la metto in freezer, la Vado a metto. mettere. Cosa vai a mettere? No, vai a Niente, aprire a sì. Giulio, bravo, vai a aprire a Giulio. Tanto c'è il cotovaiolo incastrato nella camicia. Ci vedrete mangiare anche in questa sessione a me e Catta. Ora Che vi culo. spari. Questo salla al massimo, però direi che Giulio sta salendo le scale, ma siccome non è particolarmente interessato alla trama, No, e quindi quando direi arriva fa riassunto. fare riassunto, no, direi di partire con riassunto da parte di Arci Sogiro, che è quello. Buona rega c'è ogni volta. Buona, ogni volta Aiuto! non lo fai tu. dai, hai fatto tutto tu l'ultima volta, dai un senso al... Ah, la premessa di stasera è che vi ucciderò malissimo. Oh, oh, sì, frustrazione al lavoro da sfogare qui giù. ho riciclato mostri da altri manuali perché sono pigro e non ne ho voglia. E tre casi in Francia. Vi uccido diretti, che così vado a letto presto. Puoi ammazzare Giulio Sceo. Ciao, è già morto in realtà. Ciao. Ciao Giulio. Stiamo pensando di sacrificarti. Perché Salas deve uccidere uno di noi, abbiamo scelto te. E ammazza tutti. Ok, cioè neanche tipo, ma perché io? Mi avrei ucciso per essere storia generale. No, e non funziona, detto... non funziona esattamente così. E sì, hai detto Salas che devi fare il riassunto. Ok. Va bene, può farlo anche Giulio se vuole. Questo è un po' di mojito se vuoi. Il riassunto? Facci il riassunto Giulio, visto che sei arrivato adesso. Allora, eravamo stati liberati di prigione, abbiamo cercato alcuni lavori senza particolare successo. Non è vero, Vezza ha trovato. Io avrei trovato, ma vabbè, senza particolare Salla ha fatto in modo che non ci potrò andare. Basta. Inizialmente non è che ti puoi resuscitare e andare, ma Sala si vive per lavorare. No, se Giulio fa riassunto, tu intervieni. Sceo e Lambra se ne sono andati perché infastiditi dal fatto che Vezza avesse dubbi su Lambra. Bravo, dubbi legittimi. Comunque hanno detto: non ce l'aspettavamo da voi, non da te, Vezza. Sì, ma visto che io non ho detto una parola, comunque... secondo me ha detto da te, Vezza, però. Sì, mi scrivere la trama e lo farò. Mi ricordo un da te, Vez. E poi vabbè, abbiamo passato 2 settimane spesati, alloggiati dal cartomante, che poi ci ha convocato, ha affidato questo incarico di cercare informazioni su queste pietre. E in questo scavo antico lì in Francia, da qualche parte in Francia, una grotta di Chauvet, per la precisione, che è una parte visitabile al pubblico e delle altre inaccessibili. Noi dovevamo entrare e fare fotografie e cercare informazioni su... Ah, inaccessibili, metteremo alla prova il loro nome. Su questa pietra. Esatto. E niente, siamo entrati... E adesso abbiamo visto questo bassorilievo. Grazie ad Arci siamo entrati. No, attraverso Emilio e Pietro Pezzi siamo entrati. Sì, non è vero, Arci è stato fondamentale. Abbiamo visto questo rilievo in cui ci sono degli animali che scappano. Sì, e degli esseri umani che scappano pure da questa creatura. Ma solo alcuni l'hanno notato. Sì, sembra che gli esseri umani caccino gli animali, in verità scappano tutti da quest'altra figura più grande che spara fulmini. Che era nascosta. Non era ancora stata rivelata. Chi è? Ah, Arci, ti sei avvicinato, hai toccato dove ci sono... No, hai spennellato. Spazzando il pennello. Vabbè. Dove c'era il fulmine che partiva ed è stata aperta una porta. No, non dire barco, porta, non dire porta. Barco. No, neanche varco, va bene. Buco. Non so cos'ha, com'era. Un antro. Si è aperto un qualcosa. Bisogna essere pignoli per vivere. Dando fastidio a qualunque cosa si muova sulla terra. Senti adesso, hai detto porta, non c'è una porta, perché non posso giustificare. Questa è un'avventura realistica. Non posso giustificare 35.000 anni fa l'esistenza di una porta scorrevole. Ascolta un attimo, si è creata questa apertura nella roccia. Sì, però sarà uno che inseguirà quei fulmini. È un'apertura che dà in quella porta. Quindi è una porta. No, va bene. È un varco. Un'apertura. No, varco l'ho detto io e ho detto che non andava bene lo stesso. Quindi non è che te lo puoi ricostruire. Quindi io non ho memoria. Qualcuno di voi si ricorda una conversazione di questo tipo? Ok, siete in una stanza buia. No, anzi, si apre da voi, davanti a voi una porta che dà 20 minuti all'esso. Una porta che dà su una stanza buia. Abbassa la candela. Sì, esatto. La illuminiamo. Illuminiamo di immenso. Abbiamo le, i cappellini con adesso le torce. C'è la parte in cui Archie deve bloccare e poi basta, se ne va. Se ne va a casa. Siamo accendiamo la i cazzi luminosi sulla testa. Ok. Ed entrate. Sì, Beth dice vado avanti io. So schivare le trappole. Ah, beh, io potrei mandare avanti un clone, in effetti. Che stronzo? Beh, avanti tu. Ho il mio potere, uso. Crea un clone. Anzi. Addio. Ah, cazzo, ma io dovrei dovuto prendere dei potenziamenti. Vabbè, lo massimo li prendo dopo. Faccio un clone. Ok. E gli dico. Clone. Benvenuto. Ora il tuo compito. Vado a prendere il clone. Ora il tuo compito, clone, caro mio amico clone, è prendere questo elmetto. È vero, ma se io indosso l'elmetto, non viene con l'elmetto, perché papà è un equipaggiamento, non è un vestito. E boh, secondo me ci sta che viene con l'elmetto. Sì? Però non si illumina. Le batterie. Bello. Non si illumina? Esatto. Allora gli do il mio elmetto. Mm-hmm. Prendi questo elmetto, clone. Vai dentro, dai un'occhiata, non stare troppo avanti e se torna indietro a riferirci. Lo tiro potrei fare se solo avessi voglia. Tira. Se solo facessi 5? Mi sembra un'ottima idea. Se solo mi sembra un'ottima idea. Quindi vado dentro, giusto? Va dentro, guarda. E torna indietro a riferirci. E ok. Dopo un attimo torna. Scogliato. No. E ti dice, c'è una grande stanza con due porte. Scusami, quando dici porte intendi dei varchi o delle porte? È una buona domanda, Vez. Però, non essendoci... Anzi, è una buona domanda, Andrea Giacomo. Però, non essendoci altre... Dovrebbe dire altri una sala buona in gioco, la chiameremo porta. Ah, quindi vuoi dirmi che sono delle porte? Strano però, così antiche. Molto deve curiosa essere, come cosa. Deve essere sicuramente... Sì. Sono porte di legno, tra l'altro. Ah, di legno, allora sono proprio delle porte. Mi sembra poco realistica questa avventura, ma voi no. Siamo i sospettini e ce ne andiamo. E in mezzo alla sala c'è anche una sorta di tavolo. Ah. Con sopra due urne. Una per me. Figi. Oh, è quella del mio warlock. Due urne. Salla. Di che colore? L'hai visto? Che cosa? Le urne. Due urne. Nere. Sì. Non vedo un cazzo. Devi spargere. No. Devi entrare. Mi spargo un attimo. Non hai visto nessuno comunque? No. Per caso hai visto se alle pareti ci sono dei pittogrammi o robe del genere? No. Ok, vabbè. Spagini. Grazie per il tuo contributo, è stato molto prezioso. E lo disattivo. Urna di destra. Va bene, allora entri e vedi come è descritto questa sorta di tavolo in mezzo alla stanza, con sopra due urne. Tavolo con le urne, allora. No, scherzo, va bene le urne. Quindi alzi un'urna? Se pesa meno di 8 kg. Pesa meno di 8 kg. Prendo l'urna adesso. Scusa, una domanda. Cioè, tu fosse stata anche 150 kg, saresti stato comunque in grado di sollevarla. No, è con la forza, se faccio il pensiero. Da lontano. Ah, telecinesi. Sì, non è che dico io vado lì, sollevo l'urna e faccio... No, però mi immaginavo tu, tipo, che la soppesavi. Saranno 15 kg. No. Allora no. Da lontano la prendi. Sì, sì, la prendi su e... Sì. Sul piede di cappa. No, e la porto qua. Ok. E la mostro a loro. E cosa... Come è fatta? Allora, è una sorta di urna nera con un tappino sopra. Tipo vaso canopy? Sì. No. Nel film non va mai a finire bene quando si aprono queste cose. Sì, gli dico, cazzo, Enrico, amico mio. No, no, no. Cioè, noi usciamo, lui apre. Forse, rega... Facciamo anche un clone diverso. Ah, giusto. Ma se invece la tenessimo così e la portassimo al cartomante? Sopra ci sono delle incisioni, delle scritte. O se no glielo diciamo. È una buona domanda, no. Hai detto che è nera, giusto? Sì. Di che materiale sembra essere? Magari fatto? Se l'apriamo, sembra di quello che c'è dentro, sembra una roba tipo ceramica, argilla. Provo, Salla, se la scuoto un pochino, sembra tipo che ci sia dentro un liquido o una polvere, per intenderci. La mano, non potrò più sollevare. E in realtà sembra più una polvere. Cioè non fa blu. Esatto, tipico rumore delle polveri. Provo un pochino. Ho visto questa scena nella mummia. Con un pennello o con una specie di qualcosina abrasivo. A farlo sulla superficie del vaso dell'urna per vedere se magari c'è qualcosa nascosto sotto uno strato un po' di merda, capito? Non so se mi spiego. Ok, non ti pare, ma tira su mente. Oh, brutto questo 6. 6 davvero? Ti sembra che il tappino sia sigillato con una roba tipo cera. Che però c'è ancora. Fuori. E poi muori. Fuori la camera. Oh mio Dio, è cera. Morto. Riga, la battuta è troppo forte. Prendo anche l'urna di sinistra. Non riesco a non farla. Okay. Non riesco. E la porgo... Ti sembra praticamente... ha un peso leggermente diverso, però fondamentalmente è uguale. Quindi stesso cosino, se lo faccio sulla superficie non vedo la minchia, vero? Cazzo, questo era il momento di Yak, porca puttana. E anche lì c'è la cera. Riga, ma che cazzo ci vengo a fare nella caverna, porco troia. Più che altro, il tavolo che c'è lì di che cos'è, hai detto, di legno? No, il tavolo che c'è lì è un tavolo di pietra. Ah, ok. Ah, di legno sono le porte. Ci sono delle porte. Allora, ci sono due porte. Una... Andiamo in questa stanza e guardiamo. Ci sono due porte. Una è sulla vostra destra e una è di fronte a voi. Ah. Andiamo in clone diverso a tastare ogni cosa e non scatta niente. Mi sembravi molto, molto aggressivo. Non puoi fare tu fare sei cloni adesso? In realtà sì, basta uno alla volta. Fai sei cloni e li fai rotolare sul pavimento tutti quanti, quindi per fare coprire la superficie della stanza. Vabbè, lo può fare anche un solo clone che si muove per tutta come un coglione stanza. Ma con due piedini non riuscirà mai a coprire tutta la superficie che dei rulli di cloni. In realtà, se prendessi il potenziamento, potrei farne anche due alla volta. Ma cosa che vuoi fare? No, beh, volevo vedere se c'erano tasti nascosti sul pavimento. Mandare un clone a cercare che magari un clone da solo entra e non scatta niente. Noi magari entrando con 10 piedi becchiamo qualcosa che pestiamo. Pom, la testa di Giulio scoppia. Boh, possiamo fare la mia. No, beh. Possiamo fare un osservare? Cosa del genere? Potete perdere del tempo a vedere... Direi che lo perdiamo. Sì, con gli elmetti accesi e le torce. Ok, la prima cosa che vedete è che... Le porte, anche se sono di legno, il legno sembra essere, diciamo, sembra tenuto bene, non sembra marcio, distrutto, sembra che comunque sia non curato, però non quindi avere 35.000 anni. Uno, ah no, certo, qualcuno sicuramente questa stanza la conosceva bene. Ci sono delle tracce nella stanza? No. Sento. Sì, dal primo momento. Sì, ora mi tirate tutti su mente. Oh! Cioè, non ti basta di 6, Salla? 5, infatti. 5 anch'io. 1. Cazzo di che? 5. Bam! 3, 5. Guardiamo, okay. Cazzo! Non vedete tracce. Niente. E non vedete tracce, ma vedete che non c'è polvere sull'altare. Ah! Catta però questa cosa non l'aveva notata. Catta non l'ha notata. Ci ha sbattuto contro la testa. Catta, detto, riga, ma quanta polvere c'è qua? Esatto. Ci giriamo, Catta Bresco con le urne aperte, che bevo. No. Sul tavolo, oltre ad essere bellucidato, è scritto, ci sono delle scritte tipo dei disegni che richiamano il disegno che era fuori, tipo fulmini, proprio liscio come il culo. Comunque di... vuol dire che qua c'è stato qualcuno poco tempo fa, anzi molto poco tempo fa. E ci sono impronte sul pavimento? No. Tipo di stivali nella polvere? No, oh, non c'è polvere. Ma sul pavimento? No, pulito, che pavimento. Niente? No. Rega. Sul tavolo, provo un attimo a smuovere il tavolo verso una direzione. Tira su fisico. Sostenano di 8? Sì. Come rompere reperti antichi. Ma magari è un passato. Tira anche 2 di 10, secondo me. Il tavolo è un altare o 6? 6, misero. Ti stai legame. Sforzando parecchio, ma non riesci a smuoverlo di un millimetro. Però io vado indietro. Io propongo che Arci subisca un punto, subisca un punto psiche. Se lo spingo il tavolo non si muove, io vado indietro con i piedi, immagino. Sì. Minchia, chiaramente. Io, si sta muovendo, raga. Io propongo che Arci, per questo, per il fatto di non essere riuscito a muoverlo, subisca un punto psiche di disonore. Dice no, sono diventato cioè, secco, no. Dico, non è possibile. E ci mette l'angolo a tipo a piangere. Vado sotto il tavolo e si diventa alto di scuola. Non voglio diventare secco, non voglio diventare... Tira. No. Ma non è una lastra di pietra? No, un tavolo. Ha un tavolo con le gambe. Magari ha due unici pilastri. Anche una coda. Sì, ma comunque è fissato al suolo, vero? Sì. Oppure è molto pesante. Devo fare la prima sulla mano. Spunta dal suolo, magari è scavato proprio. Beh, magari è molto. Va bene. Ci sono due porte, dai, dividiamoci. Che tipo di porte sono? Hanno una serratura o sono delle assi di legno? Allora, sono porte con entrambe una serratura. Sono chiuse? Sì. O proviamo ad aprirle? Proviamo in quella prima laterale. Che tipo di serratura oppure, è? Rega, l'apro io. Oppure qualcuno fa un bel falò. L'ossigeno qua non è. Ti ha scritto il tizio di coso? Alessandro Rivaroli. A chi è scritta? Credo a noi in diretta. Ah, il commento del video. Ha chiesto se i tuoi vicini allora, sono pronti. Abbiamo il commento bellissimo. Che di è quello di Marco Santis. Salla merda per te. È quello che sia più corretto. Vicini di caso. Invece Alessandro Rivaroli ci commenta con vicini di casa sospettosi, ne abbiamo a sto giro? Buon episodio, Riot Now. Grazie Alessandro. Vedremo, abbiamo la finestra aperta. Bomba termobarica. Quindi magari... Ecco, bene. La notte è giovane, la notte è giovane. Chi è Alessandro Rivaroli? Il creatore di... C'è appena stato un rumore curioso. Va bene. Che tipo di serratura è? Cioè di quelle vecchie a... Che ci servono quelle chiavone enormi o sì. Quelle nuove? Col... No, quelle vecchie col chiavone enorme. Oh, brutto! Apro la porta. No. Non credo che sia un passaporto per la chiave. No, no, no. Però se la uso su Cloud. No, la serratura è chiusa o spingendo comunque la porta si apre? È chiusa, è chiusa. Sì? Bene. Vediamo se questa porta... Che cazzo di palle. È serrata al suolo sta porta. Prima no. Appoggio un orecchio da entrambe le porte per sentire se si sente qualcosa. Oh, bravo. Orecchio da entrambe le porte. Schiaccio a testa. Contemporaneamente. Bravo, Katta. Allora aspetta un attimo, però. Tardi. Non senti nulla. Arci... Arci è partito. Non sento nulla. Katta, se vuoi mettere senti le un ecco che arrivo! Aspetta, Arci, prima di tutto, quale delle due? Prova a metterle. Hai detto che ce n'è una esattamente di fronte e una a destra, vero? Sì. Vado in quella a destra. Vai in quella a destra. Dov'è la pagina delle durezze del materiale? Ah, qua. Carne 25. Lenta. Siccome Vess è lì che è pronto a sfottere la mia prestazione, la mia performance, io uso un punto psiche. Sì, ma non ho capito, ci vai col piede come nei film o con la spalla? Ah, vuoi aprire la porta di brutto? Ah. Minchia, hai avuto proprio la frustrazione per no, in sera. Realtà diciamo che probabilmente ci proverai col piede. No, non lo so. Okay. Palestra. Cazzo ne frega. Tiro magari un calcio, se il calcio non funziona, tiro la spallata classica. No, cioè, ma solleva la grotta, cazzo. Intanto che farci fa questo, nell'altra porta si riesce a sbirciare dalla serratura. È buio. Puntando la luce dentro. Io penso che c'è anni che passa roba qua. Aspetta. Quale delle due stai guardando? Quella dove non sta facendo il suo. Arci, quale delle due stai sfondando? Quella dove c'è cappa. No, quella a destra, quella a destra. Sento quasi come qualcuno che stia muovendosi di gran carriera verso di me. Arrivo, Tardi. Immagino cappa. Tardi. Calcio sulla torce. Arci sta già prendendo il bilanciere. Sto già facendo del tavolino di pietra. Sto lanciando le urne contro la porta. Ma abbiamo gli attrezzi da scalata, tipo, possiamo usare quelli. Per scalare la porta. Per rompere allora, la porta. È buio anche di là, ma vedi un corridoio. Qui c'è un corridoio. Ah, sta guardando la serratura. Anche qui. È buio di là, però vedi il corridoio. Sì. Ma tu scusami, di solito non apriamo le porte perché tu fai la chiave della tua manina. Sì, potevo provare a fare quello se qualcuno avesse. Ah, ok, Arci al protagonismo palestrato. 8 più 7, 15. Apro il corridoio della parte. Ok, la porta si sfonda e con la mia sacca. Tiro su riflessi. No, prima è. Oh, c'è una trappola! Qualcuno si porta la schiena di nuovo. Prima è tipo: oh, rega, mi raccomando, però, no, magari è passato qualcuno di qua recentemente. Non facciamoci sentire. Carica! 5. Eviti per poco una freccia che ti manca. Di così. E io c'ho di. Una freccia di trappola o una freccia tirata d'iniziativa? Una freccia di trappola. Ah. Che colpisce Katta, che era lì così. Ok, detto questo, Arci, il corridoio svolta a sinistra. Aspetta un attimo, diamo un occhio alla freccia. C'era una trappola qua, raga, ma andate avanti per nomi diversi. Arci, stai più attento. È un'ottima idea, quindi è andiamo. Posso guardare un attimo la freccia, com'è fatta? Vuoi guardare la freccia, com'è fatta? Com'è fatta? È una freccia. Prova a fischiare per vedere se si alza. E moderna. Grazie, antica. Giulio. È una freccia di legno con una punta di un qualche metallo lunga così. Tipo un dardo? Sì. Mi sembra una roba un po' pseudo antica. Boh, come fai a saperlo? Non lo so. Cioè, se fosse. Che metallo? Se vedo che è tipo, che ne so, acciaio, boh. Non so. Bronzo. Riesci a distinguere i metalli guardandoli? Beh, dal colore o assaggiando non esattamente che metallo sia, però se è una roba un po' il bronzo antica, lo conosci bene. Magari finta antica, chimica, tipo magari l'unica volta che la possiamo usare. È vero, grande Katta, lancio la freccia nel corridoio. Tieni Katta. Io e Katta tipo l'unica volta la prende. La campagna che la possiamo usare. Tieni tu. Io aiuto Katta. Che differenza mi fa? Ah, è vero che adesso se la litigano. No, riga, non litigate. No, io aiuto Katta. Funziona così, prendo la freccia e faccio a ghisa. Funziona che tirate entrambi e chi di voi fa quello alto. No. La pasta è comunque un materiale che non è acciaio, probabilmente è ferro. Bene, se è ferro. Magari non scopre il materiale, ma non è automatico. Secondo me invece... non è che adesso non posso usare una freccia di bronzo. No, però secondo me invece è abbastanza improbabile. Comunque non ci sono incisioni sopra o robe varie. No. E soprattutto non possiamo sicuramente dire, ah, questa è una non c'è tipo una patina oleosa, fenicia, però possiamo dire punta. È bronzo, è tipo le rame. A seconda di come sono le piume c'è un cambiamento. Noi è ornitologo, quindi non c'è una patina oleosa che potrebbe essere tipo veleno sulla sì, punta. C'è una patina oleosa che potrebbe essere tipo veleno. Ah, dico ad Arci che potrebbe assaggiare. Che non ha senso. Falla provare a un clone. No. Probabilmente è veleno. Potremmo provare anche se la trovo la parte di aiuto. Il clone può morire che non succede niente. No, il clone muore e soffro io, però. Vabbè, sarà divertente. Non trovo aiutare. Non vorrebbe, che bello vedere. Vabbè, se no tiriamo entrambi. Aspetta. Okay. Più uno al tiro del dado per rango. Vabbè, hai un più uno. Rango 1. Che merda, cazzo. Ma hai fatto? È di plastica. Hai fatto? No. È una riproduzione. Ho fatto 2 perché ha il mio più 1. 2. Allora, vi impegnate parecchio, guardate, provate a toccarla, a grattarla sulla parete, e potrebbe non essere metallo, potrebbe essere una lega di ceramica e carbonio, che non si dice lega, però. Ah, qualcuno non ha fatto chimica come doveva, Saladini. Ho messo le birre in friggere? Sì, una o tutte? 2. Ah, non ho visto l'altra. Te briga perché hai fatto uno. Due cazzo. Ha fatto schifo, Katta. Katta pensa che sia. No, Katta ha visto che potrebbe essere un materiale ceramico. Sì. Un composto, materiale composto. Vabbè, io non ho motivo di dubitare di Katta. Esatto. Però dico, rega, magari c'è del veleno sopra, potrebbe essere. So di non essere intelligente chimicamente come voi. Vero. Il veleno è più difficile da stabilire senza. No, però per dire siamo attenti. Sì, sì. E andiamo avanti dei cloni per eventuali trappole, però a parte gli scherzi. Dai. È partita una freccia. Salla, il punto da cui è partita la freccia è dalla parte del muro. Esattamente di fronte alla porta. Allora io. Diritto così. Si vede il meccanismo che l'ha lanciata, come è fatto. È un buco nel muro. Mentre voi giocate, forse potrei potenziarmi. Attivo con la luce dritto dalla porta, da dove ho sfondato, dritto, cosa vede? Ah, praticamente c'è il corridoio e svolta subito dopo a sinistra. Sulle pareti vedo dei buchini, posso tirare per vedere se vedo qualche buchino simile? Di solito è un'immagine più che... Sì. Cioè, se avanti con attenzione, lentamente, e ci metti un po' di tempo... Non vedi nessun buchino, nessun altro buchino. Però hai visto dov'è il meccanismo di attivazione della trappola? È sicuro il 3-0. Ed è praticamente una pietra di fronte a dove sei entrato, che hai calpestato. Il treviso fa ok, capito, raga. La freccia è partita perché ho calpestato. Non so come, visto che sono andato molto con i piedi, tranquillo. Ma sì, è sembrato anche a me che tu non abbia fatto assolutamente nulla. Ho calpestato a quanto pare in maniera un po' sconsiderata una pietra e ho fatto partire la freccia. Prova anche a calpestarla. No, beh, adesso lo sai. Mi sei sempre stato simpatico, vabbè, Arci, ma ora non più. Vabbè, clone di Vez, prova a ricalpestarla. Certo, usa i tuoi cloni, Giulio. Vez, diventa clone. Usa i tuoi cloni. Io posso solo... Usate cloni di fuoco. Usa tuo cellulare, Giulio. No, però potrei iniziare a produrre oro. Sto cercando di fare la mappa. Hai detto questa è quella dritta, no? Di porta che abbiamo sfondato. Bravo, no, grande. Questa è quella a destra. Se non fosse che hai macchiato la lavagnetta dietro, non so per quale motivo. Lì? No, sul legno l'hai sporcato. No, sotto. La riga. Esatto, però potevi non mucchiare. Quindi adesso abbiamo sfondato la porta a destra, no? Mm-hmm. Ma quante ce ne sono? Poi c'è un'altra che va dritto, che è quella da dove sbirciare. Domenica non c'è pale, ma c'è sabato. Vabbè. Capito, amici del podcast, vi ricordiamo che sabato c'è palestra in via del Tutto Straordinaria, ma domenica no. Giusto? Quindi ricordatelo se dovesse venire in palestra ad Arci. Quindi domenica, per chi vuole andare a Milano Marittima... Prendo Giulio e lo appoggio col piede sulla tegola. Cazzo, mi si chiama? Allora, no, io volevo prendere una roba figa. Il buco da cui spara la freccia, quanto più in là è? Cioè, molto in là o subito dopo la porta? Natura, sei tu che sai da dove è partita la freccia? Ticchini? È un po' dopo, tipo 6 metri, 7 metri. Ok, e poi hai detto che il corridoio va verso... Svolta a sinistra. Invece di cosa la porta sfondata? Sì. Bellina. Poi svolta a sinistra. Mi finisce la lavagnetta, facciamo che svolta a sinistra. Oh, va bene. A sinistra? Rifalla? No, non potevi partire dal centro qua. Ah, è Katta che è ritardato, raga, è diverso. Sinistra. Oh, senti. Ho gestito una lunga giornata. Era giusto, quindi? Sì, sì. Io potrei prendere multiplo. Che me ne fa fare di fatto due insieme. È un potenziamento nominale, quindi lo pago uno in meno, quindi lo pago 4. Capito, Salla? Che sono cazzo di potere. No, questo è costa poco, perché è uno. Perché è uno, capito che è uno. Sì, no, vabbè, ma nel senso, non è un gran potenziamento, Salla, hai capito? Ah no, Salla è andato via, ciao. Vabbè, giocheremo senza la sessione di Astract Heroes. Heroes, esatto. Allora, a proposito di potere, mi hanno fatto notare, molto gentilmente, tipo, Salla, non leggi il regolamento, sei un coglione. E che quelle volte che vi ho fatto attivare il potere come reazione, in realtà non potevate farlo. O meglio, potevate attivarlo come reazione, ma finiva dopo. Dovevate dirlo prima. Eh? Ma, scusami, hai detto? Finisce dopo un round. Se non l'ho mai così. Fatto. Non l'ho mai fatto. Cosa vuol dire finisce dopo un round? Cioè, ok, ho capito, sì. Sì. E chi è che ti ha fatto sì, notare? Sì, neanche io credo di averlo mai fatto. Una voce nella testa. Guarda come cita Fumble in modo così spocchioso e chiaro. Direi un clone di Vett. Ok, Vett, allora, cos'è che prendi che non ho capito? Prendo multiplo. Multiplo mi dà la possibilità con bersaglio personale, cioè stesso, molto personale. Di se il bersaglio se il potere ha scelto se il potere scelto a bersaglio personale, ogni volta che verrà acquistato questo potenziamento aumenterà di 1 il numero di locazioni. No, allora no, se il potere ha tipo creazione, significa che comparirà un oggetto o creatura in più rispetto al normale ogni volta che il potenziamento è stato acquistato. Quindi, okay, quindi ne fai 2. Esatto, insieme. E questo fa sì che ora io improvvisamente lo faccio e mi trovo 2 cloni insieme e dico, che cazzo? Cazzo, non bastava, Dio, boh. Come vedi, ho comprato potenziamento. Quindi parlo, dico, rega, mi servirebbero 2 cloni però subito. Giù. E vedo 2 cloni, dico, cazzo, eccoli. Che culo. Che culo. Che fortunello. Quindi ora... Vai, Vez muore. Chissà quale sarà dei 3 nel dubbio, tutti e 3. Fuoco. Sì, poca importanza che il fumo uccida tutti noi. Godremo comunque. E vabbè, allora dico: ok, ragazzi, non mi aspettavo fosse così numerosi. Ma. Beh, no, non brucia niente. Se bruciano i corpi, un po'. Se bruciano i corpi, sì. Siamo in 3 corpi che qui viene da fuori. Ma stai già bruciando i Vets tu? Sì. E vai, tutti a 3 nel dubbio. Allora invece le urne liquidi magari prendono più poco. E Salla, se brucio quello originale, quando si sdoppia, sono bruciati anche loro? Sì. Ok, arrivano 2 cloni, 2 Vets. Esatto. fa parte dei vestiti e le stare bruciate. Una cosa, Salla, ma stai andando avanti 2 cloni tu? Tu voi gli avete detto che non sì. Volete. Sì. Per ora li hai evocati. Allora, ragazzi, non vi aspettavo così numerosi. Hai visto qui? Sparisci lì a correre urlando qua del ricordare qui. Avrei bisogno che uno di voi. È uno? L'altro sta dietro. Uno. Che voi andate avanti, però uno dietro l'altro. E prendete questo elmetto, uno. Ma l'elmetto ce l'hanno tutti e due, ragazzi. Sì, ma non funziona, ce l'abbiamo delle torce, delle cose. Sì, esatto. Ce l'avete. Possiamo dargli quello? Cioè, se vuoi dare l'elmetto. Va bene, diamo la torcia a uno e l'altro all'elmetto. Quello dietro all'elmetto. Abbiamo anche bastoni fluo. Quello che ho bisogno che quello di voi arrivi, passi l'angolo e guardi. L'altro sta dietro. E praticamente vi fate un passaparola di quello che vedete. Puoi dire di ripigiare qualcosa per vedere se... Ma non pigiate lì, per sicurezza. No, fallo ripigiare. Questo, no, non tu, il clone. Ma okay, vedi che i tuoi cloni avanzano? Quattro qua, quatti quatti. Devo tirare il controllo? No. Ah, sì, tira. Uno è un 3, uno è un 6. Ok. Avanzano, lentamente. Sì. Arrivano in fondo. E sì. Si accucciano e tipo il primo davanti sporge la testa. Poi si gira verso il secondo e fa... Pss, pss, pss, pss, pss. Ok. Poi il secondo viene da te. Sì, posso neanche parlare. C'è un lungo corridoio Sì. E poi c'è una porta. Sempre una porta di legno? Vabbè, non lo sai tu, giustamente. Va bene. Vabbè, ci sta. Pare di sì. Ah, bravo, sai, hai chiesto. Grande, sei un genio. Non come me. Ma smetti di sporcare qualunque cosa, se mi stai sporcando aspetta, la lavagnetta. Hai sporcato il righello. Così prezioso. Beh, va via. In realtà sì, è prezioso quel righello. Sì, è quello del è il righello di Trieste. Ah, sì. E tu, Catta, che ti definisci uno scienziato. Io non sono 5-6. Che cazzo hai bisogno del... Che cosa hai bisogno del righello, esattamente? Per fare la riga dritta. Ma scusate se lui è perfezionista, eh. C'è un lungo corridoio e poi una porta. Sì. Per i datori di lavoro, guardate cosa c'è anche nel gioco. Rega, avanziamo. Che dite, avanziamo? Manda i cloni e se è sicuro... Fagli sfondare la porta a loro. Vabbè, intanto andiamo alla cosa. Ok, avanzate. No, e se c'è la trappola sulla porta? Prima appoggerei un orecchio alla porta per sentire se c'è qualcosa. Va bene, allora, avanziamo qua dall'angolo almeno. Dico ai cloni a sto punto di andare. Uno di andare alla porta. L'altro, vabbè, non gli dico niente, aspetterà lì. E l'altro di andare alla porta e ascoltare. E tornare indietro e dirmi cosa ha sentito. Ok. Allora avanza, tira. Tiro il controllo? Sì. 4. Va bene. Avanza. Sì. Mette l'orecchio. Sì. Poi torna da te. Sì. Non ho sentito niente. Ah, bravo. Servono ancora i miei cloni? Sì, che corrono per tutto il coso. Rega, c'è una porta, va aperta. La porta. Corrono e poi li mangia a spiaccicarsi. Beh, fagli sfondare la porta loro. Non credo che siano in grado, Rega, di sono in due, ci riusciranno. Sì, ma come non sarà in grado io, non sono in grado neanche loro. Cioè, non è che... Magari si spaccano le spalle, però non muoiono, quindi va bene lo stesso. Va bene, provate... Ma scusa, ma tipo, se provassimo ad aprirla, sta serratura? Sì, proviamo a scassinarla. No, siamo qua. Vabbè, intanto io li disattivo, perché sennò passa troppo tempo. Va bene. Intanto li disattivo, poi andiamo a vedere la cosa. Mi accetta. Va bene, proviamo a scassinare la porta. C'è la serratura? No, non proviamo. Se siete dei tori veri, urlate al bar out of... No. Aspetta. Potresti urlare, Bez. Penso che siano dei commenti. Allora, aspetta, sì. Noi siamo. Fanno apposta a commentare quando il cellulare in carica. Se siete dei veri, dei tori veri, urlate all'Akbar, all'Albar, out of nowhere. Ok. Chi è questo? Questo è Matteo Borisotti. Salutiamo e ringraziamo ancora per aver sopportato quello con la camicia. Grazie. Povero uomo. Non catta lui. Ok, allora la porta è chiusa. E Catta vuole provare a scassinare? Sì. Facendo il giochino dell'altra volta, immagino. Beh, posso utilizzare anche gli strumenti che ho, però se vedo che la cosa si fa ostica, posso provare era moito. A usare tu anche il giochino dell'altra volta. No, che strumenti hai? Abbiamo quelli da scalata, chiodi, piccozze. Ah, ok, vuoi prenderlo a picconate, va bene, dai, ci sta. Tira. No, ma tipo fare leva. La birra. Cose così. La birra che comprare. Sì, ho capito, penso che pronta. Ci possa essere solo da continuare. Ah, no, è solo perché sennò esplode. Tre. Ma è molto resistente. Forse avendo un piede di porco vero potresti farcela. Ragazzi, troppo resistente. Allora provo a fare il giochino dell'altra volta e scassinarlo. Ok, stai lì un minuto a canalizzare. Channellare. Sì. E poi tiri su controllo. 5. Perfetto. Il tuo ditone... Tu metti il ditino dentro e aspetti lì un minuto. Uh-huh. E poi dopo alla fine fa ting e apre la porta. Col tetano, Catta. Scusate. Sì. Avevi dei dubbi? Che busone. È paralizzato con lo sguardo verso il cielo, così. Immobile. Okay. Allora, la porta si apre e davanti a voi c'è una stanza. Fermo. Controllo se sul pavimento. All'Albar. Pavimento. Aspetta. Ci sono mattonelle in sopra il rilievo che possono essere schiacciate e provocare la morte. Intanto apri la porta e si illumina dentro e quello che vedi è casse rotte ovunque, corpi. Almeno una decina di corpi. Freschi? Sembrano cadaveri dalla distanza. So che sono dei cadaveri, dico, però... Puzza, sì, parecchio. Cioè, morti ieri o morti una settimana? Ti devi avvicinare. Cioè, c'è la pelle o c'è già lo scheletro? Non lo so, con una torcia dalla porta. Trovate gli scheletri? Mandiamo un corpo. Manda uno dei tuoi cloni. Giulio, oggi ti diverti a darmi gli ordini. Cioè, voglio dire, sguattera. Anzi, facciamo una cosa, faccio il clone, poi gli dai tu l'ordine, senza che mi dico di obbedirti, vediamo cosa fa. Okay. Che stanza è? Una stanza... Anzi, io dico, se Giulio ti parla... Scavata poi lo brucia. È sempre una stanza nella roccia, sì. Allora, prima di mandare i miei croni... Ci sono una decina di corpi, ha detto. Oggi abbiamo, in realtà, il... Primo vero sponsor che ci ha pagato in birra ed è il birrificio Claterna. Yep. E questa è una birra che si chiama Vanda, è un birrificio artigianale, giusto? Sì. Arci, vuoi aggiungere qualcosa? Bravo. Non ho capito perché io non posso però approfittare di questa Pietro. Cosa. Esatto, magari l'altro. E questa birra contiene glutine. Allora, questa birra si chiama Vanda, nello specifico, con la W, ed è una Weiss del contadino. Weiss cosa vuol dire? Weiss vuol dire bianco in tedesco. Weizen del contadino. Birra agricola, non filtrata e non pastorizzata. Consigliere, prodotto imbottigliato. Sì, non capisco perché non possa approfittare di sta cosa, però. Cioè, malto d'orbo e malto di frumento. Tu non puoi approfittare perché sei un lurido francese di merda. Una volta alle penne ti fai deportare. Sì. È vero che hai votato Macron, Saladino? No, ho votato Macron. Non posso votare io. Voglio essere un miliardario. Va bene. Sono mica un banchiere come voi. Allora. Prima di... Vabbè, quello che capita. Aspetta. Ah no, però no, andrebbe rotta. Quindi giusto. Quindi in realtà perché si chiama bianca? Perché è una Weiss, c'è un tipo di birra. E beh, di cosa c'è di bianco? Allora, intanto da un punto di vista così dovrebbe essere più chiara. Poi l'aspetto tecnico io ammetto di non conoscerlo. Quello che... Però forse Salla lo sa. Tu che la fai in bagno? Nella vasca. Direi che la dose è giusta per 4. No, tu ne vuoi un po'? Ad Arci che... Allora, no, al birrificio Claterna, grazie. Ma, e grazie ad Arci soprattutto per avercela portata. L'ho comprata. È mio cugino, perché mio cugino è... Ma te la date? Sì, me l'ha portata lui. Ah, ok, ma le hai comprate? Sì, le ho comprate. Ah, vabbè, regà. Allora un finto sponsor. Lo sponsor è Arci. Quello sono io. Ah. Quindi? Io non le... Buona. Quindi buona. Non male. E... l'aria che si respira. Quindi allora scusatemi, ero di là. Ci allora, sono dei siete sempre... mi sono scordato. Allora, siete sempre in una sorta di umidiccio da caverna grotta. E in realtà è abbastanza freddino da umido. E adesso c'è anche una parecchia puzza di decomposizione e marcio. Allora, qua ci sono dei cadaveri. Arci. Giusto, una decina. E non avete, non abbiamo assolutamente idea, ovviamente, di delle casse rotte. Che tipo di casse? Casse da morto. E poi continua sta stanza. Ah, casse da morto. Di legno. No, casse di legno. Casse di legno. Però, tipo quelle di Crash Bandicoot. Tipo quelle di... No, sono tipo quelle di... Presente quando nei film prendi i reperti, li metti nelle casse piene di paglia e queste si rompono. E... Ah, ok. Quindi c'è anche la paglia sparsa. Sì, c'è anche paglia sparsa tra i cadaveri e casse e pezzi di legno. Voglio fare una prova con l'elmetto, inquadro un cadavere e voglio capire se... provare a capire se il cadavere è morto, tipo, per perforazione... Sei morto di fame, se ci sono dei segni di sei molto violenza. Andiamoci con i diversi, quando la cosa è sicura entriamo. Cosa volete guardare? Anche come sono vestiti. Non vediamo la stanza prosegue, vabbè, giusto? Gli diamo a un clone diverso. No, però c'è una porta a metà della stanza nella parete di sinistra. C'è una porta a metà della stanza sulla parete di sinistra. Beh, dagli questa macchina fotografica e fagli fare delle foto. È una porta a due ante. Era per metterti paura. Lo hai fatto. È una porta grossa a due ante. È passato più di 6 secondi, penso, giusto? Sì. Sì. Allora faccio due cloni insieme. Mm-hmm. Oh, di nuovo, da paura. E la macchina fotografica. Allora ho bisogno che tu, indico uno dei due, proprio tu, vada lì dai corpi e faccia delle foto e poi torni indietro. Mentre tu dovrai fare una cosa molto importante, che è andare dalla porta che vedi lì, gliela faccio vedere, e ascoltare se dietro senti qualcosa. Tiro per il controllo. Ma uno è un 2, uno è un 6. Ok. Allora, al primo cosa gli hai detto che non ho capito? Cioè, non ti ascoltavo. Il primo... Allora lo fanno. E i risultati però li hai ascoltati, eh? E uno deve fare le foto ai cadaveri, l'altro ascoltare dalla porta. Quindi dalla macchina fotografica uno? Sì. E va verso i cadaveri. Sì. E l'altro? L'altro deve ascoltare dalla porta se sente qualcosa e tornare a riferire. Ok, anche quell'altro entra nella stanza. Allora vedi che questo qua si avvicina ai cadaveri e ora mi tiri su riflesso. Sì. 3. Vezzino, sei un po' morto. Vabbè, sì, anche qui Salla nella... La stanza, hai detto che c'è una porta chiusa alla sinistra, ma in fondo è chiusa. Sì. Quindi è... Voi dove state nel frattempo? Noi stiamo dall'ingresso, non troppo in vista, credo. Ok. E vabbè, non troppo in vista. Sì, vabbè, siamo dall'ingresso. Ok. E vedete che appunto il clone di Vez si avvicina e comincia a fare le foto. Quando a un certo punto un cadavere di fianco a lui si alza, gli tira un morso fortissimo a una gamba, fa cadere la macchina fotografica che si rompe e ora Vez tirami, ci deve dare gran soldi, sì. Dimmi quanta vita ha il tuo clone. Altre macchine fotografiche però, Dimmi quanta allora, vita ha il tuo clone. Sì, un mezzo dei miei punti salute. Ok, allora togli 30 punti ferita alla gamba destra. Quindi non è morta la gamba, cioè non però è morta. Però ora mi tirate iniziativa. Grandi, però vedi che siamo potenti. Madonna. 2. Tururu, tu, tu, tu. 3. 3. Faccia le gambe. Oh no! Oh, Rock and Roll! Sono tipo gli zombie cattafe... Ah no, you want it. Ok. Procedo. Se moriamo... Chi è sulla porta? Iata. Tu, Brugito, ti... Suppongo io e... Due di voi devono essere sulla porta. Vai, va bene. Io pensavo che ero rimasto, io ero in bagno. Quello in bagno, quello in fondo a destra. Vai, va bene. Però io... Catta, dai. Catta perché stavo smanettando. Io sono stato dietro a Catta. Okay. Allora, vedi un cadavere che che attacca il tuo clone sulla porta? Sì? Può provare a schivare se vuole o parare. Non fare la scena alla Zombieland. Allora, quello sulla porta, giusto? Una schiva. Se fossimo più skillati 3. Nel combattimento... Prende 40 danni alla testa, quindi muore. Un punto fatica. Ok, era che sfiga la testa. Vez è morto una volta. Ok, altri due zombie. Può fare una prova fatica? No, solo no. Altri due zombie vanno. Altri due cadaveri vanno, uno su Vez e uno su Katta. Al primo su Vez. Posso schivare? Sì. Una tu puoi tirare un D8 a Vez. Perché posso tirare un D8? Salla non può capirla. Questa, secondo me. Ah. Hai capito, Salla? Non ho neanche sentito. Ti sembra una battaglia di Warhammer. Figo, il caos, basket. Gli scheletri contro gli uomini lucerto. È Vez l'uomo lucerto. Arrivo subito. Ah, ma sono in caos. Cazzo, no, o conti vampiro o femmine. Vabbè, tiro questo. Adesso tutti sotto una gara. Niente, uno. Colpito. Si colpisce al 7. Di fronte già il caos. Gamba destra. E ti fa 20 danni. Ok. Katta. Schivo. 6. Ti colpisce al 6. Ma va. E ti fa... 10 danni. Schivo. Vedete altri cadaveri dietro nella penombra e nel vostro casino con le torce. Ah, ci stanno attaccando. E tocca a voi. Beh, direi che chiudiamo la porta. Chi c'è dentro la stanza? Chiudiamo giù dentro, diciamo burn them all. E... c'è il clone di Vez. Dobbiamo recuperare la macchina fotografica. Sì. È rotto. Ho capito. Beh, magari l'SD dentro. Vabbè, Giulio va a prendere la macchina fotografica. Sono i scheletri 4. Nella penombra vi sembra che siano almeno 4. Sì, però perché però gli altri cadaveri sono 10, magari si alzano. Io più che altro che non ho nulla con cui combattere. Cioè ho il taser, immagino. Beh, io ho un manganello. Abbiamo tutti le però siete voi quelli armati. Abbiamo picozze e roba da scalato. Sì, anche la roba da arrampicata. Ho distintivo. Cosa vuoi andare a 40 punti di esperienza? Un manganello? Per prendere non lo so. Non so. Stavo pensando. Salla, se uno prende un pezzo di un clone 20. Di Vez, quando il clone scompare, perde anche quel pezzo. Non scompare anche quel pezzo. Sì. Chi tocca? I primi due di voi, Giulio e Vez. Io e Giulio. Ah, beh, vado in bagno intanto. Allora, ho una domanda, Salla. Mm? Perché il dominio elettricità dice: l'Hero emette scariche elettriche continue a partire dal proprio corpo che infliggono i danni indicati a seconda del grado del potere. Se avanzato a distanza, permette di creare degli archi di elettricità e quando le scosse si scaricano, colpiscono il primo bersaglio sulla linea di effetto. A seconda dei danni inferti, questi subirà anche gli effetti secondari, come descrivo. Vabbè. Quindi il primo bersaglio, qualsiasi, cioè un amico o un nemico? O... non lo so. Sì. Forse allora non è una buona scelta. Ci sarà qualcosa che bersaglia solo gli amici? In realtà no, tra queste cose qua, perché sono fatte tipo per fare danno a manetta a distanza. Beh, sono quelle che posso puntare tipo... Allora, io sì, di solito sono tutte a cono, non so come dire. Io quello che ho al taser, no? Allora tiro una taserata a quello davanti. Ok, tira. Tiro di 6, giusto? Sì. 4. Non lo colpisci. E non posso indietreggiare, immagino. E... non credo. Il ghiaccio non cioè, posso fare. Se vuoi indietreggiare per far chiudere la porta, sì. Ma indietreggiare per uscire dal suo raggio d'azione, no. Per due motivi. Uno, che hai qualcuno dietro. Sì. E due, che sennò lui ti stupra. Va bene, va bene. Sto lì. Però se la domanda è: posso chiudere la porta davanti a lui? Sì, puoi farlo. Cioè, ah, puoi farlo Katta, tipo. Vabbè, mi metto leggermente in modo che se sì, può sì, sì, chiudere la porta, la chiude. Sì, sì, sì. Giulio. Io do fuoco a Vez, che è davanti a me. Mettiamoci d'accordo. Vabbè, diciamo che per il momento estraggo una piccozza e cerco di aiutare Vez. colpendola alle spalle. Muori prima, meno soffrirai. Gliela tiri la piccozza? No, mi avvicino. Ma avvicino. Siete catta e vezza nel corridoio. Occupano tutta la cosa? Sì. Allora, raga, ci ho provato. Beh, se qualcuno di voi si sposta, ci indietreggiamo. Indietreggio. Cosa mi siamo perso? Io lo sto bruciando tutto. Indietreggio con tutto il movimento che posso fare. Cioè, cioè io in realtà vi darei dei cloni da armare. Armare con collo. Con le piccozze. Delle piccozze, insomma, abbiamo quei cessi da. Dobbiamo produrre sostanze. Abbiamo cose scalata o da restauro e da cose? Da scalata anche, perché avevate preso le cose da scalata, mi pare. Ah. In realtà sì, io li sono inutile. Salla, io voglio usare anonimità. Tu sei, allora, tu, davanti a te ci sono Vez, Katta e dietro due tizi. Giuseppe, poteri supremi. Sì, quasi va sotto. Non quanti zombie. Magari sarebbe... è uno zombie o uno scheletro? Ti sembra un cadavere. Come l'ha scritto? Allora, sembra che abbia tantissime scorazioni in giro per il corpo e alcune parti della pelle sembra che siano praticamente quasi sciolte ed è vestito di... è come se avesse una tunica. Io questo? Un po' stracciato. Anche quell'altro. Quindi sembra di fattezza, di fattura, roba antica. O è una sorta di prete. È un frate. Che comunque è sempre stregonesco antico, anche prete. Vabbè. Niente, io... Ah, e poi aspetta, l'altro mio clone prova a tirargli un cazzotto. Fighissimo. Cioè, gli dico di colpirlo. Okay. Le cose, le sostanze di questo... Sei per dirgli di colpirlo. E ora devi tirare per colpire. Cioè, non ci arriva da solo, no? 3. Niente. 3. Colpito. Tira la cazione. Miracolo. Sono stati proprio 10 di colpirlo e poi tiri... 5. Braccio destro. Ok. Però cosa fa un D4? Non mi ricordo. Penso... Giusto? Un D4, sì. 2, 20. Giusto? 20 danni. 20 danni al 5, hai detto? Yes. Ok. Ok, Katta. Dentro la stanza di noi non c'è più nessuno, giusto? C'è il clone di Vez e basta. Lo saluto e chiudo la porta. Ok. Ciao. Boom. Ok, Vez, puoi provare a schivare questo colpo? Cioè il tuo clone può provare a schivarlo? Sì. 5. Colpito. Colpito al 4. 10 danni. Ah, ancora vivo. E tirate... Katta tira su fisico. Prendi i fieri. 5. Devo tirare anch'io? No. Ok, senti uno scossone della porta, ma riesci a tenerla chiusa. Tocca a voi. Dobbiamo sbarrarla. Ah, io disattivo quello dentro, però. Ok. Mi sa che la mia azione è quella. La porta è si apre verso di noi o verso di loro? Si apre verso di voi. Ah, a posto. Però in realtà dovremmo ucciderli sti qua. Prendiamo tempo. Ho un'idea, Katta. Al mio via. Siete andati all'inferno. Al mio via apri la porta. Se mi mettete in due, voi intanto la tenete, sicuramente. No. Salla. Io dico... l'unico è Giulio che fa il fuoco. Do una mano, mi avvicino. Io visto che non ho ancora fatto un'azione, mi avvicino a Katta e tengo sbarrata la porta insieme a lui per dargli una mano. Ma posso fare... E voglio dire a Katta una cosa, dico... Visto che la situazione è un po' brutta, e glielo dico a bassa voce in modo che non mi sentano le vesti. Di merda, qualche parte. Ah, è là, guarda, puttana. Dimmi, scusa. Io lo dico, io dico a bassa voce senza che mi sentano né Giulio né Vez. Sempre meno tecnologico, capito? Non ho capito un cazzo quello che hai detto, però. Infatti, per quello dico. Mi avvicino a Katta e gli do una mano a tenere la porta chiusa. E gli dico a bassa voce senza che mi sentano Giulio e Vez. Che voglio provare a rovesciargli il contenuto di un'urna addosso agli zombie. Io dico, okay. Arci, potrebbe essere semplicemente polvere. Piuttosto prendiamo tempo così magari... Guarda come lo vuole dire a Katta, perché sa che lo può convincere, invece noi gli diremo, sei una testa di cazzo. Non hai visto la mummia, cazzo io! C'è una cazzo di zanzara di me, va bene, dimmi. È stupidissima, ma... Se ti dissi una matita, hai ragione. prendiamo tempo, intanto Vez accumula cloni e gli certo, ma diamoli pure alla morte, tanto chi si ma prende la fatica. Vengono stati in due round, ma appunto non round, dopo che li ammazzano tutti gli altri. Nel frattempo li avranno fatti, lui ne fa ancora. Sì, ma quando Vez è bellissimo, è come giocavo io a cosa? Age of Mythology. Non perché io non posso capire. Continua. No, io volevo semplicemente vedere un modo, se c'è un modo di uccidere questi zombie, perché non è neanche detto che se tu li colpisci muoiono. Cioè, il mio clone l'ha colpito uno, però non so se poi sarebbe morto. Per quel discorso. Io l'ho mancato, ovviamente. Se no, ma ci coordiniamo. Ma io dico, ma visto che voi siete fatti tutti fighi con le armi di tutti i tipi, non vi è rimasta qualche arma? Stiamo ritenendo la porta, esatto. Ma visto lì che fai, visto che voi fate i figli, mentre lo tenete, ogni tanto sentite uno scossone. Poi a seconda di quanto dura, vediamo la vostra conversazione. Ma non ho capito, sentiamo uno scossone? Cosa? Ogni tanto sentite che loro provano a aprire la porta. Asher non ce l'ha più l'arma. Io ho un manganello, ma non mi lanci corpo a corpo. Non gli è rimasto nulla delle armi che avete di solito. Le lasciate per non farci. Ho gli shuriken, però. Non avete pistole? No, se avessi avuto una spada. Se avessi avuto il mio fucile d'assalto, questi cattivi. Non so, so che di solito vi portate mezzo arsenale, rega, ve lo chiedo. Abbiamo lasciato a casa apposta, visti i precedenti. Riguardatevi le puntate precedenti. Salla funziona come D&D, che se li curi muoiono, gli lancio gli antidolorifici. Secondo me, rega, l'unica è che Giulio gli spari addosso del fuoco. Sì, quella è l'unica. Direi che possiamo fare una prova. Cioè, ci coordiniamo. Se io e il cat ti apriamo un pochino la porta e tu Giulio... Potete anche non aprire, cioè, posso bruciare tutto se questo parlate, mentre parlate gli scossoni si fermano. Non sento più niente, forse sono tornati, mi sbircio dalla serratura, è buio dentro, apro la porta e dico tutto... questa è tutta la tua magia, salva. No. Vabbè, fino possiamo aprire, no? Per guardare. Non posso fare come prima puntando la luce nella serratura per vedere cosa c'è. Io anche se volete posso fare due cloni, li armiamo con le picozze e Giulio sta dietro a fare fuoco sopra la loro spalla, però non so se si può fare l'atto pratico. Sì. Non so se in gioco si può fare. Ale. Polizia o ospite a sorpresa? Yak. Ma non sai fermare Karen. La polizia, a quanto pare, può anche venire tranquillamente e giocare al ruolo. Laz. Sì. Avremo un ospite ospitoso che si metterà, immagino, lì per l'arci. Sembrava saltare. Oppure tu ti metti più vicino, cioè come volete voi. No, mi alzo, lo faccio passare. Però diciamo che buono. Chi vuole si può spostare. Va bene. E quindi ho andato via di nuovo. Ciao Laz. Ciao. Per la sicurezza. Ciao Laz. Ciao. Bello che... Soprattutto con che Salla. No, Salla è... si è oscurato. Ha deciso di andare. Allora, avete l'occasione unica... social. Grazie. Il personaggio probabilmente più potente di storia. Esatto, ti trovi a vedere il personaggio più potente della saga. E non è Giulio per la prima volta. Non ancora. Non è... vai. Ci sto lavorando. Devo scegliere il dominio. Che è l'As. Che però tu devi andare o lì oppure Arci ti fa stare lì. No, ma mi metto di qua, tanto non so. Vabbè, ma comunque ti metti al tavolo con noi. Buongiorno. Ciao. No, sì, ti vedo. ti vedo. Ma vuoi giocare, Laz? No. Sala, c'è Laz che ci ha detto che tra poco moriremo. Dobbiamo andare via da qua. Allora, Laz ve lo ricorderete forse in una delle avventure quando eravamo a Borgo Panigale, che è apparso e aveva... ordigno nucleare, figo! Ecco, grazie Giulio. Scusate. E aveva, aveva 30 anni di più di adesso, quindi potete immaginare lo scempio. E praticamente ci ha portato in una dimensione dove... Io Laz ho la tua scheda comunque. No, no, non ti preoccupare. È vero, tra l'altro in questo gioco noi sappiamo che tu hai visitato Salla a Marsiglia senza dircelo. Senza musei, però. E avevi... ma non nella realtà. E praticamente mentre eri in un museo hai acquisito i poteri. Ah. Per una volta che sei andato in un museo... La pazienza. Certo. Usare per te sarebbe un potere assurdo. OP. Va bene, questo lo possiamo provare a mettere da qualche parte. Allora, se lo vuoi bruciare, puoi bruciare il nome, Giulia. Non sei abituato. No, per poterlo fare posso farlo. Ci ma no. È attratto dal campo gravitazionale. Sì. È pieno di paglia e casserotte, quindi... Ci conviene bruciarli, ma perché probabilmente il fumo... ci soffocheremo. Dà tempo di fuggire, che stiamo lì. Oh, moriremo. Mi sa che dobbiamo esplorarlo. Esatto, distruggerebbe delle cose preziose potenzialmente. E... Ora giusto. Magari però aspetta, qua potremmo... non, magari gli zombie sfondano e ci uccidono tutti. Una però... cosa, Salla, ci sono delle, c'erano delle porte nella stanza con i cadaveri. E magari collego. Però sai cosa però hanno smesso, hanno smesso di bussare, quindi io sono lì a proteggere qualcosa. Oppure hanno fatto il giro, stanno arrivando. Potremmo baitarli. Salla, non possono fare il giro, non hanno il cervello. Come no? Sta facendo? Che manovra sta facendo Laz? Off topic. Laz non so se lo vedi bene, se te lo giro un po'. Perché devo riflettere bene sul dominio. Della gente che riesce a fare soldi con... Vedo il naso di Laz. E potremmo baitarne uno dentro, chiudergli la porta alle spalle quando passa. Pestarlo di mazzate, quello preso io. Dove il loro numero non conterà nulla. Sì. Più che altro non ha, cioè, mi viene un dubbio, perché hanno speso di spingere? Non c'è più Fabbro dentro. Qualcuno, non c'è più Fabbro dentro. Qualcuno vada a controllare l'ingresso, che non ci prendano alle spalle. Manda un clone, Vez. Vez! Giulio, dai gli ordini a Vez. Vez, manda i cloni. Ci è venuto il dubbio che i cloni... Sì, che i cloni... Perché, chi... perché giochi al buio? Fermi tutti, ci stiamo chiedendo tutti da molto tempo. Perché c'è... questa è la rossa. Questa è la rossa. Sì, allora, fermi tutti, mica che pancia. Allora, prima di dire, io avevo chiesto prima a Salla, ma tu te ne eri andato in chissà quale stanza, visto che tra l'altro sei una stanza e un bagno, quindi sarà stato in bagno a cagare mentre parlavo, e ti avevo chiesto se è possibile a livello di gioco fare che i due cloni stanno davanti con le piccozze e Giulio sopra la loro spalla. Questo passaggio, allora, abbiamo deciso di non bruciare niente, perché questo già lo abbiamo e quindi il fuoco potrebbe danneggiare tutti. Domanda. Quindi l'idea è semplicemente di mandare dei microni dentro a morire, così no, io muoio di fatica e poi quando finiscono va arrivando addosso a voi. Esatto, no. Okay. L'idea è che i tuoi cloni stiano fuori e tu vai dentro a combattere gli zombie. Quanti cloni puoi fare? Quando li vede scomparire tutti sapete che sono morto. Mi sembra giusto. Hanno smesso di spingere. Quanti cloni puoi fare? 6, ma devo aspettare un po'. Grazie. Aspettiamo sei. Un po', fai 6 cloni, più no, 3, aspetta. Siamo 9. Grazie, i zombie hanno smesso di spingere il portone, quindi come adesso... Sei? Ah sì, sei. Sei, no? C'è venuto il dubbio che vogliono fare il giro, hai capito, Viz? Aspetta. Sì, sei. Sei. Sì, ho capito, Argy, stai calmo. No, massimale del dado controllo, sei. Devi spedire almeno un clone a fargli fare il giro per controllare che gli zombie non stiano facendo un giro da qua. capito? Ah, per perché ci la... il problema è che non sapete la strada per andare di là. Apri c'è la porta chiusa qua che non è sfondata. Esatto. Vogliamo aprire l'altra? Però no, qua dobbiamo... vogliamo la Salla, che puoi fare... chiusa, quando loro hanno smesso di spingere io e Katta possiamo un pochino aprire e vedere perché hanno smesso dall'altra parte, magari sono allontanati. Vabbè, intanto se è passato un round e direi di sì, anzi lo hai passato. Io faccio due cloni insieme. Ok, io faccio questa cosa con Katta, quindi apri la porta lentamente. No, non è che la cioè, è verso di noi, no? Sì, quindi tiro un pochino stando un po' indietro con la testa, vedere che con la luce riesco a vedere se gli zombie si sono allontanati dalla porta. Ok, vedi di fronte a te due zombie. Mulan! No, quella è finita. Tu sei quello grosso nel gioco? Cioè, lui è se stesso. Lui è stesso. Però è un po' che non fa palestra, quindi è un po' secco. Cosa succede se io aumento... il peso di un bersaglio? Non ci si vede però così. Questi diverso, zombie sono fabbro. Perché non spingono più. Abbiamo la spalla comica adesso. Dopo che mi vedono gli zombie e chiudo, non continuano a spingere. Non ricominciano a spingere. No. Io qui non so che la scalda. Sì. Così mi incoglio di te. Esatto. E chiedi. Provo... ad aprire un attimo. Bellino che ha sul grande schermo. Manganellata e chiudo. Tira su riflessi. Ma l'hai fatto? Raga, mia madre mi ha chiamato. Cioè che hai fatto un due, dai, neanche fatto. Due, ti becchi un morso sul braccio che sta tirando. 30 danni. Quanto? 30. Schivo. No. Quella era la schivata. Ah, questa è una schivata. Ora se vuoi puoi tirare per colpire. Ciao, certo, vabbè, almeno. Già, com'è? 2. Non lo prendi. Probabilmente perché la sua testa non è più dove era prima, ma è sul tuo braccio. E richiudo la porta. Cata, il morso! Adesso che me lo fate ricordare, io potrei attivare il mio potere per recuperare danni. Curerò Arci della sua stupidità, non posso, ma almeno dei suoi danni. Allora, io farei questo. La tua idea comunque io farei questo: apro la porta e rovescio Katta all'interno a costo di perdere un braccio e richiudo la porta. Allora, Salla, io farei questo: attiverei il mio potere per curarmi alla gamba destra. Ma tu sei tutto rotto? No, però non ci sono. Vabbè, che mi frega me. Che mi dà lentezza, che vuol dire cioè che posso ti fare. Che sta dimezzato. Ok, no. Va bene. Salla! E no. Poi? No, perché... Ma tanto due round passano veloci. Bruciare tutti non sembra una... Dopo che ho finito di curarmi... Caso, visto che siamo in una grotta superata. E con i miei cloni andrei di là, in fila indiana. Vari domini. E andiamo a vedere che cazzo succede nell'altra stanza. Salla, la prima stanza è come l'avete lasciata. La porta è chiusa e così. Ah, a posto. Salla, prima che... Andiamo a Aspetta, Arci. Voglio dire una cosa, prima che Katta mi curi... Lo butto dentro. Lo butto dentro. Per vedere se il morso degli zombie è semplicemente tipo un danno, diciamo, fisico, cioè un morso me lo potrebbe dare l'Az quando si arrabbia, o se invece magari tipo ci sono delle... Cavolo, ne so, vedo tipo del... non del veleno, ma delle tipo salivazione un po' particolare, delle reazioni strane nella pelle. Tira. Medicina. Ho paura che mi attacchino la zombinaggine. 4. Ma io invece mi sono curato giusto. Boh, sì, a parte la saliva di zombie, non ti pare ci sia nient'altro. Nessuna reazione strana a livello... Se parte la musica thriller, scappa. Io mi sono curato giusto. Se parte la musichetta di thriller, io scappo. Sì. Ok. Quindi, se posso, ascolto dalla porta se sento qualche rumore. Tiro? No, non senti niente. Ok. e poi torna indietro a informare gli altri. Lascia una vedetta per coprirci le spalle. Non è che duri una vita, dura 6 minuti. Più di qualsiasi altra cosa. No, visto che voi volete fare mandare i miei cloni al massacro. No, vogliamo andare i cloni al massacro. No, tu li fai. Poi quanto tempo ho attivato i cloni più o meno, secondo me? Un minuto. Ok. Allora dico a uno di stare lì e se vede qualcuno che entra nella stanza da qualche parte o qualcosa di strano, di cacciare un urlo di avvertimento. Tira, Vez. 4. Va bene. Però, rega, io tra 3 minuti, 4 lo tolgo. Intanto . Che risolviamo questa situazione. Per avere Quindi decidiamo velocemente cosa fare. Esatto. Questo non è velocemente. Va bene, mettiamo un cronometrino. Così. Rega, possiamo andare. Allora, i cloni sono lì davanti? Ma quindi voi non volete bruciarli? È una stanza piena di paglia e di legno. Come briganti di paglia. Non volete bruciarli perché pensate che ci servano questi cadaveri? No, ci serve una cosa che nella stanza, magari dei reperti o no, degli indizi. No, più che altro il fumo resta qui. Rischiamo di soffocare. Quindi Giulio, come pensi di essere utile alla compagnia? Facendo evitare che avrei voluto uccidere tutti utilizzando il mio potere. E quindi ho detto, guardate che non è utile usare il mio potere. Grazie Giulio. Grazie. Per fortuna sei tu, Ma tipo prendere invece un cazzo di potenziamento dove fai qualcosa che non siano del fuoco. Sto cercando i dominio. Tipo un potere secondario, per esempio. Vedi che ho il cellulare in mano e sto dicendo, sto cercando i domini extra. Sì, ma di solito hai il cellulare in mano anche per altri motivi, tipo scrivere a Federica, guardare i blog. Secondario, Giulio? Guardarti il tuo riflesso. Sicuramente dentro una grotta, no. No, anche dentro, dentro e non prende, rega. No, rega, c'è nei casini. Sono degli zombie, è un gran macello. No, quello chi se ne frega, però non prende mica qua. Va bene, rega. Quindi attrezzatura potrebbe prendere la roba che crea creature di fuoco. Potremmo mettere tutti presenti vari non gatti. Capito cosa? Potresti prendere la roba per creare creature di fuoco. Tirarla per intralciare. Dovrei prendere un potere secondario, però. Sì. Non mi sono ancora dell'idea. Potresti anche trasformarti in fuoco. Fiamma. Sare le cose. Fai una specie di trappola. Salla. Dimmi. La mia idea è per usare la roba da scalare. Per assicurare alle pareti i vari anellini dove fai passare le corde, no? Ok. C'è una specie di laccio di scarpa. Ci fai passare in mezzo le corde, fai una specie di trappola per intralciarli. Tira su mente. Ma no, aspetta, vuoi intralciarli o bloccare la porta? Bloccare la porta? Ah, vuoi bloccare la porta. Cioè, lo facciamo davanti alla porta. Io tra poco faccio annulli i miei cloni. Una domanda. Che effetto ha aumentare il peso di un oggetto, di una persona? Non riesci più a tirar su. Devi pagare Arci. Sì, volevo presentarla. Vabbè, annullo i miei cloni, Salla, intanto. Perché la cosa... Annulla i tuoi cloni. La cosa c'è troppo lunga. Allora, volevo presentarvi anche quest'altra birra che si chiama Marina. Ma Vez, non ci hanno dato niente. Perché gli pubblicizzi, Cristo? Perché magari domani qualcun altro potrebbe prendere, potrebbe prendere l'esempio. Noi facciamo la pubblicità gratis adesso. No, sì, beh, qui comunque ci hanno dato da bere, tramite Arci. Già, sei laureato in marketing. Le ha pagati ai suoi familiari. Va bene, però ce li ha pagati gratis, per il momento. La rossa del contadino. Malto d'orzo, luppolo e lievito. Vabbè, non sono grandi. Per favore, se davanti a una porta da mezz'ora potreste fare qualcosa. Te l'ho detto, alla puntelliana. Ah, esatto, tira su mente con Arci. Io ho una mano io, sì. Tira su puntellare. Devo tirare su puntellare? No, tira... Facebook mi dice qualcosa di... Tira uno di voi con il più uno dell'altro. Vai. Io do il più una carta. Catta da prima a me. Quanto hai fatto, Catta? Uno più uno, due. Ok, Catta, hai fatto il tuo lavoro e ti sembra fatto ma bene. Ma di merda. Di notte. ti sembra che comunque possa... Io comincio a urlare dicendo che con 30.000 lire un mio falegname avrebbe fatto meglio. Possa tenere un minimo. No, Katta, ti sembra che comunque possa tenere un minimo. Secondo te meglio di così non si può fare. Arci, quello che ha fatto Katta... Sto morendo dalle risate Arci, per terra. Sai Arci, che è quello che ha fatto Katta praticamente è mettere i puntelli nella porta e poi passarci la finestra. No, dai, così no. Allora io gli faccio... apro la porta, faccio visto Katta. Comunque, un'altra domanda, Arci. No, non ha senso, perché mentre Katta mette i puntini nella porta, io avrei già sparato su di lui. No, beh, li ha messi sulla parete. Ti sembra che il lavoro possa reggere un po'? Poi già uno zombie. Salla, una domanda. Se cosa succede se aumento di peso, non lo so. in elettricità. Io inizio a mettere scariche elettriche continue a partire dal mio corpo. Sì. Mi infliggono i danni. Però se colpisco, tipo do un pugno e il coso prende... O mi colpisce, cioè se c'è un contatto. Perché dopo parla di avanzare la distanza. Produce sostanze il bersaglio a contatto. Quindi devi toccarlo e produrre scariche elettriche. Ti do un pugno anche con una piccozza. E sì, cioè devi toccarlo. Okay. Comunque Facebook mi informa che questa è la nostra 50ª trasmissione. Però siccome in realtà una l'abbiamo fatta da Marsiglia, io e Salla, in realtà è solo il 49esimo episodio. Quindi celebriamo, ma... non troppo, con moderazione. Con ghiaccio potrei ghiacciarlo uno in traccia. Oppure ignoriamo la cosa come giù. Ma Las, comunque io ce l'ho la scheda se vuoi. No. Ci potresti essere utile. Perché, in realtà. Perché giochi al buio? Non è buio, c'è la luce. Non è buio, solo che non uso la luce, perché qua non va il braccio. Non è di moda, non è di moda. È diventato un darkettone. Non costa. Ci piace più venderla che l'italiano. Oh. Allora, amica? Boh, io sto puntellando. Mi aspettavo di rivederti capellone e barbone come l'altra volta. Io propongo, io dico, raga, non ho tagliato la barba ieri. Senso. Mi dice che il puntellamento di Katta durerà poco. Ci conviene andare a vedere dall'altra porta. Se Katta l'ha puntellata bene, possiamo provare a vedere dall'altra porta cosa c'è. Per forza. Come l'aspettavate questo? Va bene, quindi vi spostate verso l'altra porta. Grazie, signore. Prego. Allora. Appena ci giriamo, la porta di dietro si apre. La porta è chiusa. Porta della stanza? Sì. Quella di fronte. Cioè, nella stanza principale? Sì. Allora, visto com'è andata prima, è facile che ci sia qualche allarme anche qua. Ma... vabbè, no. Di Giulio, di tutto. Se noi apriamo la porta... Tu facevi 6 cloni. Sì. E poi li affrontavamo lì. Ah no, perché ci siamo due non da... Cioè, il problema è questo, che i due cloni vanno... 6 cloni, poi... dove il loro numero non conterà nulla. No, il problema è questo, io mando 2 cloni, i 2 cloni muoiono, 2 punti fatica per me, altri 2 cloni, altri 2 punti fatica per me, altri 2 cloni muoiono, altri 2 punti fatica per me, io ho 7 punti fatica, voi siete lì che vi divertite, però io muoio, e dopo tocca a voi. Non mandare solo i tuoi cloni, ma andare con i tuoi cloni. Sì, però il problema è riusciamo a sfondarli, non credo. Giulio sta proponendo di affrontarlo in campo aperto. Allora, ci sono due cose che possiamo due cose che si possono fare per rimane vivo solo lui può dar fuoco. Cioè, no, non hai 7 punti fatica. Non hai 7 punti fatica, puoi prendere anche 8, 9, 10 andare su. No, adesso no, però col loro piano li avrei. Comunque, certo, ma non hai un limite, ma un tetto massimo. No, vabbè, ma nel senso, io quello che ma dico... non è che mandiamo i tuoi cloni alla morte, andiamo... Questo era modalità gioco, a livello pratico io nel gioco dico, io possiamo farlo, il problema è che se i miei coloni continuano a morire, io poi mi affatico e a un certo punto non so se sarò in grado. Cioè, mi rendo conto che per voi non sia un problema, però non so poi cosa ci porti, perché cioè è i miei cloni... meglio che tu ti rischi l'affaticamento dando più bersagli. No, no, ma quello va benissimo, Giulio, e sono d'accordo. Il problema è che i miei cloni sono una versione peggiore di me, quindi... è impossibile. Quindi potete immaginare, immaginare quanto possano essere utili contro questi qua che sembrano molto forti. Ho capito, ma se i cloni più di 4 sono 10, loro sono 10, non è detto che riesca, al massimo. Di solito. Uno è morto al primo colpo, per diciamo. Esempio. Dipende dove gli tira. Se no, raga, gli brucio tutti. Il discorso è che, secondo me, o tipo andi lì, spingiamo tutti e proviamo a sfondarli, a buttarli a terra, poi i miei cloni davanti li verranno mangiati. Cosa. Quando abbiamo detto di andare nell'altra porta, Sal ha detto, oh, grazie. Che vuol dire che è la strada giusta. Hashtag metagame. Dico anch'io, ragazzi, ho fatto un ottimo lavoro, il problema è risolto, andiamo dall'altra porta. Ah, scusa, come altre volte. È impossibile che riesca a sfondare questo puntellamento, andiamo verso l'altra porta. Mentre lo dici, la tua manica rimane impigliata alla porta. Parti e si apre. Si apre. No. Mi è giù tutta la parete. Dai. Cioè, se hai una proposta, cioè, come volete, cioè, se volete io li faccio e poi spingiamo. Per adesso il problema è risolto. Però se devono stare lì a morire, non so quanto ci sia utile. Ho provato a dare una manganellata a uno, l'ho missato e sono preso un morso. Io non li affronto. L'alternativa è che apriamo la porta, corriamo indietro e aspettiamo che arrivino qua. Ci pensiamo dopo. Intanto andiamo dall'altra direzione. Provo a fare il giochino di prima per scassinarlo. Per un punto fatica. No! Perché? Boh. Perché ha usato il potere. Perché puzza. Sono poteri troppo distrattivi. Il potere entro un'ora. Sì, infatti tu sei molto utile. Lars, la cosa bella dei suoi poteri distruttivi è che li ha usati due volte. Bene. 26 sessioni. Oh, roller. E due volte sarebbero stati. Sono stati uno. In una sei quasi morto. Beh, Gatta apre serrature, ormai è la sua arma. Quanto hai fatto, Gatta? Sei alla faccia tua. Perfetto, si apre. Perché nessuno l'ha aiutato. C'è una stanza molto grande dentro. Ci sono quelli di prima. Che ha una porta a due ante sulla destra. E un'altra porta a due ante sulla sinistra. Va bene, raga. Alla stanza. La stanza è veramente grande. È scavata nella roccia. E... sulle pareti sono scolpite enormi volti. Due enormi volti? No, su tutta la parete, su tutte le pareti sono scolpiti degli enormi volti. Ok. Volti di? Io faccio i due cloni. Di uomo. Sorridenti, tristi. E hanno tutti la bocca aperta, così. Ah. Così, ah. Non mi avete seguito nella cosa. Salvo nella porta. Mi fanno provare di osservare con l'elemento e vedere se ci sono meccanismi di trappole simili a quelli altri. Aspetta un attimo, se mando potrei mandare i miei. Io faccio due cloni. Dico a uno di entrare nella stanza. Tira. Sei. Ok. Tira su riflessi, Beth. Uno. Eccola. Punto fatica. Si apre un pozzo sotto i suoi piedi appena aperta la porta e il clone sparisce. Ok, quanto è profonda? Cioè non ci impedisce di passare questo pozzo? No, è piccolino, è tipo un metro per un metro. E fai il suono del clone di Vets che precipita. No, ok, io dico all'altro. No. Dico all'altro. Beh, tu sei il clone fortunato. E l'altro dice forse sei tu. Tu sei ancora infortunato, perché adesso sicuramente non ci sarà nulla di cui temere, quindi vai dentro la stanza e guarda un po' cosa c'è. Fai un tiro con malus, cioè tiro due, tira e il tuo clone sta cagando sotto. 4. Va bene. Entra dentro e poi cosa deve fare? Deve guardare in giro cosa c'è e tornare a riferire. Cioè, tu fai dei cloni, ma neanche ti obbediscono a volte. Dipende. Sì, questo è il clone che cade. Ok. Grazie, Vez, per averci evitato una morte terribile. Ah, no, aspetta, ringraziare Vez non serve a niente. Ok, il tuo clone torna verso di te dopo un po' e fa... e guarda, questa stanza, su questa stanza su tutte le, ha due porte e su tutte le pareti sì. sono scolpite enormi facce. Non hai trovato niente di altro strano? Gli dico, guarda nelle bocche delle facce. Ci ho guardato e non c'è niente. No, no, no, no, che cazzo vuole? Che cazzo risponde? No, gli ho detto guardare in giro e lui ci ha guardato nel book. No, no, ma l'ha ritoccata sta cosa qua. No, tu Bezzi avevi detto prima di guardare in giro sì. e lui ci ha guardato nelle bocche. Sì. Ah, ok. Vabbè, ma è Catta che gli ha fatto una domanda. Vabbè. Ah, risponde a cazzo. Ah, vabbè, vabbè, vabbè, vai. A me... Cosa gli risponde? E, dicevo, nelle bocche c'è solo il muro dietro, c'è parete. Brutto coglione. Gli occhi, brutto gli occhi coglione. Clone maleducato. Gli occhi come sono fatti di queste statue? E io continuo a filmare nel frattempo. E dobbiamo filmare qualcosa. Dobbiamo fare una continuo a filmare, non mi hai mai detto che cominciavi a filmare. Comunque. Sì, dalla scorsa puntata. Sì, beh, non puoi fare 50 sì, ore. Sì, vabbè, ma... Non sono allora 50 è finito... Ok, scusa, è finita la memoria. Molto tempo fa. Che cazzo di macchina ci è andato? Vabbè, una guarda che più di due ore non ce la può fare. Hai finito la memoria, Giulio? con le altre macchine fotografiche facciamo delle foto a sti posti. Il cellulare ha più memoria. Vabbè, cancella sì, quella ma se stai, sì, ha più memoria, ma se stai due ore così si scarica la batteria. Sì. Vabbè, ma il cellulare non è... Immagino che ci abbiano dato qualcosa apposta. Mi avvicino alla porta, due ante di sinistra. Non abbiamo un caricatore portatile. No, non si è scaricata la batteria, però vabbè. Però insomma. Noi facciamo con le macchine fotografiche che ci rimangono, facciamo a foto a questi posti. Faccio una panoramica e poi spengo. Va bene. Ciao. È una porta due ante chiusa. Sembra più decorata rispetto a quelle altre. Ci sono alcune incisioni nel legno. Ci vorrebbe una incisioni sono. Che incisioni sono decorative, tipo petali e serpenti. Petali e serpenti. Chiamo Catta, dico Catta, riesci a scarsinarla? Se no ci penso io. Ci posso provare, mio signore. Allora, Catta, intanto mi tiri su riflessi. Visto che fai grosso. 2. Ottimo. Dove sono le statistiche? Fate veramente dei bei tiri. Eh? Ho già fatto 2-1. Quando qualcuno mi aiutava. Era okay. Una coincidenza. Dopodiché, Catta? Guardo com'è la serratura. È come le altre. Allora, è come le altre, ma più grossa come grandezza di chiave. Beh, intanto è chiusa la porta, sì. magari è aperta. Chiusa. Okay. Allora, dato che è così grande, provo a scassinarla con gli strumenti che ho senza usare il potere. Ok. 6. Tira di nuovo su riflessi. Hai già fatto il 6, aia. 5. Ok, ti accorgi che hai fatto un discreto casino ad aprire la porta, però la porta sembra che si apra adesso, non si richiuderà mai più come prima perché hai tipo dovuto scardinarlo un po', cioè aprire un... è due ante, quindi hai dovuto un po' spostarle tra di loro. E Salla, posso farti una domanda prima che dici cosa contiene? Oh, sì. Che ti frega, distruggendo la grandezza di questa porta. Ci il tuo clone la disattivi, immagino. Sono già passati ormai 6 minuti? A voglia. Catta ci ha messo una ventina di minuti a scassinarlo. Ah, allora sì, per tempo io lo disattivo, sì. Ok. E... la grandezza di questa porta... Scusa, dov'è la porta? Come dimensione? A sinistra. Ah, quindi probabilmente non è... Ah, e poi anche dall'altra parte ce n'è una. Due, sì, è una a sinistra e una a destra, giusto? Ok, quella a destra, cioè comunque entrambe, sono di una grandezza che potrebbe essere quella della porta che abbiamo visto nella stanza... Tira su mente. Ok. Secondo me queste porte praticamente sono dei portali che generano degli pterodattili. Sono identiche a quelle. Tu l'hai vista poco la porta di là dagli zombie e ti sembrano grandi uguali. Comunque si è fatto uno. Mi sembrano grandi uguali. Sì. Rega, secondo me questa porta qui praticamente ci porta in una dimensione dove Yak comanda un'armata di dinosaurini. Non è quello che ho detto. No, potrebbe essere la stessa, secondo me è la stessa grandezza di quella che c'era nell'altra stanza. A tutti voi, anche se la stanza è molto grande, è palese che la porta di sinistra sia tipo due volte quella di destra. Mm-hmm. Sì, Vez. Certo. No, cosa vuol dire? Cioè, nel senso, io ho chiesto se era uguale a quella della porta della stanza di là. Esatto. Okay. Tu hai detto che le porte ti sembrano tutte grandi uguali. Sono stata in zara di merda. Ti sembrano tutte grandi uguali. La verità è che, anche se la stanza è molto grande, quella di sinistra è molto più grande però di quella di destra. Cioè, è il doppio di quella di destra. Quindi sono proprio stupido, cioè, come persona. No. Cioè, nel senso, come prospettiva... più o meno sembra che si equivalgano tutte come porte, perché le hai viste poco, le hai viste male, è buio. Però la verità è che... nel senso che io non so come dire. Cioè, volevo potrebbe sapere... essere. A te sembra, no, sembra di sì. Per me sì. Sì, soprattutto sì, quella di destra. Ma quello che io dico è che secondo me quella porta là è uguale a quella soprattutto là. Quella di destra. Se una porta lì è il doppio dell'altra, spero di non dover tirare per capire. No, soprattutto infatti quella di destra sembra uguale a quella di prima. Ok. E invece gli altri capiscono che io sono un demente. No, però lo dico agli altri perché quella di sinistra è molto più grande di quella di destra. Tipo il doppio. Quella di sinistra l'ha aperta, no? Sì. Come abbiamo visto dentro? Niente. Cosa niente? Non l'abbiamo ancora detto. Devo fare i miei cloni. No, l'ha aperta io. Questa osservazione Vez l'ha fatta prima di Katta. Katta, sì. Stai scassinando, ci metti una ventina di minuti, apri la porta e vedi che la grotta... Prima di aprire dico ok, si può andare. Vabbè, tanti problemi sono poi... sempre dentro. Cerchiamo un volontario per face checkare la nuova stanza. Vuoi fare un altro clone? Vai, faccio i due cloni e giro verso la telecamera che Laz, questo per te. E dico a uno di aprire la porta. Mi sposto. 4. Sì, anch'io. Ok, apre la porta e poi sì. Guardate tutti dentro. Sì. E quello che vedete è una sorta di leggio in mezzo alla stanza. La stanza è veramente grande, è veramente enorme. C'è una sorta di leggio in mezzo alla stanza con sopra qualcosa. Dungeon. Come? C'è un leggio enorme con sopra? Con sopra qualcosa. È veramente grande questa stanza, è grandissima. Dietro... è una che permette di volare da qualche parte. Cosa? Niente. Dietro. Scusa. Giulio, cosa te ne fai? Scusa. Giulio, cosa te ne fai di una spada, visto che non usi già normalmente il tuo potere? Esattamente. Cosa te ne fai? Continua. Dietro c'è un enorme serpente che pare fatto di pietra con la testa rivolta sopra il leggio, rivolta verso di voi. Il serpente è enorme, è gigantesco. Visto che gli zombie sono svegliati, non vorrei che questa bella spada poi avesse la stessa idea. Io faccio tra i due cloni, faccio Ambarabacci. dico va bene. Io guardo quello che c'è sulle G e faccio. È troppo lontano. Dico, vicino. Dico al clone che non ha aperto. Dico, tirate iniziativa adesso... però, allora. Cos'è che fa? Si avvicina. Non hai aspettato, dico, mentre io tipo sceglievo un clone, questo è palestra. Uno. No, volevo muoverlo a prenderlo contro i cinesi. 6. 5. 5. Bilico. Vaffanculo, Katta. È anche quella più piccola. 3 Katta. Ok, io invece tiro un bel di 6. Io ho fatto 5. Ok. Il serpente è un cobra, un boa. Irrasumente, ti sembra una un pipistrellino? Sembra una sorta di anaconda. Mannara. Io ho perso dei dadi. Se male. Dicevo, quindi Arci ti avvicini. E ti pare, ma forse è solo una sensazione, che no, più fai passi in avanti e più la testa si avvicini sopra al leggio. Io basta arrivare al range di... Ok, che è 8 metri, quant'è il range? È dato controllo. Sì, 8 metri. 8 metri. 8 metri. Sei a 8 metri dal leggio. E qual è il tuo difetto, mi ricordo? Ogni volta che uso un potere mi aumentano di 100 PF tutte le locazioni. Sì. Che sfiga! Il vero difetto? No. Non ci voleva. Il cinesi è incapacità. Aspetta. Incapacitante. Questa non è la buona cosa. Quindi non puoi fare altro, mi pare. O per un'azione, mi pare. Ah, ecco, lo sapevo che qualcuno di voi merdini l'aveva fatto. Difetto, poi sono quelle piccole perfezioni che ci rendono ognuno speciale. Ma tu cosa fai di solito? Cioè, niente, questa cosa qua fa di solito. Perché? Io prendo io li seguo nelle avventure. Gli fate portare video. No, in realtà non è vero. Una volta ho quasi perso un braccio e un'altra sono quasi morto. È vero, se gli dai un'arma si attiva. Ho capito, però in 50 puntate hai fatto due cose. Ha dato anche fuoco alla casa di Evo. Sai, l'altro gioco non è tutto comunque. Non è vero, non è che posso fatto tanti problemi. L'altro, non è che posso girare a bruciare la gente. A meno che non sia nella casa di Ema. Lì era per salvarci la vita. E se poi la casa di Ema per cato, e tra l'altro non l'avrei mai fatto se non ci fosse stato Sheo che disse ci stanno attaccando e butta la pistola e spara in aria. Allora Salla, dicevo, ogni volta che lo usi sei distratto. Già normalmente lo sei, cosa cambia? Cosa hai detto? Ok, sono distratto mentre mi dici okay. Che sono distratto, quindi sto concentratissimo. Sopra il leggio vedi adesso, ora che si è avvicinato, distintamente un libro. Il libro si solleva e anche la testa viene verso di te. Hai due scelte, o tieni il libro... Segui il libro, la testa? No, adesso è serpente. Sta arrivando su di te. Quindi o tieni il libro o lo molli e ti scansi. Tieni il libro, fratello. Cioè, il serpente ha preso vita, praticamente. Il serpente ti sta sta avvicinando. Sì, cioè, tu lo alzi e il serpente sta arrivando in avanti. La testa. Sposto il libro a destra. No, non verso il libro, verso di te. No, ok, no, allora mi scanso. Ok, ti scansi e cioè fai proprio un salto da una parte. E mentre fai il salto dalla parte, senti la testa che impatta al suolo e vedi che si forma un grosso buco e la testa poi torna su indietro. Il libro è caduto dal leggio. E dov'è? È subito lì davanti per terra. Voi a tutti avete visto questa scena. È il buco che si è formato? È grande come la testa, quindi è tipo quei 4 metri. C'è qualcosa sotto? No, Arci si è scansato. L'anaconda? C'è qualcosa. Che cosa ha posto degli occhi nella faccia? C'ha fatto un buco. Sembra che sia fatta completamente di pietra. Merda. Voglio fare... quando mi sono scansato, voglio provare a fare anonimità all'anaconda e vedere se avvicinandomi... Ma l'anaconda non è tipo scomparsa per terra? No, è per ritornare. No, sono fatto così. Pum! Ah. E gli è mancato. Cioè mi sono... Ha fatto un buco e poi è rimesso sulla testa. Esatto. Okay. Vai a vedere se facendo anonimità e avvicinandomi la testa comincia un po' a imbizzarrirsi di nuovo. Quindi scusa, fai anonimità e poi? E mi avvicino. Quale senso escludi? La pietrosità. il gusto, almeno se lo mangia, non avrà la soddisfazione. Così a noi. Ah, sì, hai perso un punto fatica, l'hai segnato. No. La vista. Comincio con la vista. Ok. E poi? Quindi la tua vista è... Poi faccio tipo due passini piccolissimi. E lui si volta verso di te. Torni indietro. Ok, quando indietreggi la testa indietreggia. E comunque il punto fatica puoi segnartelo. Voglio prendere un altro e farlo con l'olfatto. Ma scusa, perché non vi avvicinate in due insieme e vedete dove si gira? Non so se... Uno fa da esca e l'altro... E poi avanti? Uguale. Sì, è uguale. Sì, okay. È più furba qualcosa. Scusa, non c'era l'iniziativa? Sì. Però voi non mi dite niente, quindi boh. Ma scusami, ma se lui fa tutto, cioè nel senso, possiamo fare qualcosa anche noi? Sì, ho finito. Ok. Perché hai fatto l'iniziativa? Tu sei il clone. Ho fatto uno, quindi. Arci, quanti turni ha fatto? 12? Due. Vuoi mandare una Maria di clone a prendere il libro, che tanto lei non può focussarli tutti. Allora, io sono dico, proprio persone vere. Allora, visto che sono passati ormai due turni, faccio altri due cloni. Mm. A un clone di quelli... A due cloni. Quindi scusa, hai quattro cloni? Ho quattro cloni. Ok. Va bene. Dico a... Dico di entrare nella stanza e a uno di andare a prendere il libro. Anzi, due di andare a prendere il libro e due di andare dall'altra parte. Ok. Ma rimanendo Intanto mi tiri due che vanno dall'altra parte. 3 e 4. Ok. E ora i due che vanno a prendere il libro. 3 e 4. Ok, i due che vanno a prendere il libro, come lo vanno a prendere? Il libro è per terra, no? Sì. Si muovono e... Insieme, cioè, stessa distanza. E ci andranno... ci andranno... Falli partire da due direzioni diverse. Così vedi dove si gira la tipa lì. Sì, però vanno comunque tutte e due nella stessa direzione. Capito, comunque. Però se vanno così dovrà decidere chi dei due... Nel senso, cioè il serpente è in mezzo, allora, no? Giusto? Il serpente è qua, no? Con la testa che si è rimesso sul libro. Se li fai partire così e vedi dove si gira. Ah, c'è la testa sopra il libro, scusate. Cioè all'altezza del libro. Ok, sì, da due direzioni diverse. Ok. Cioè da uno da una parte e uno dall'altra. In questi round che ci mette Vez a avanzare, gli altri cosa fanno? Così sistemiamo. Sembra che lo stia leggendo. Quindi tipo chiedergli, mi scusi, lo posso prendere in prestito? Parlare con le statue, fatto. Ah cavolo, ma è super lontano. Nella stanza c'è dell'altro, nelle pareti. Allora, no. Vuoto. Sì. Va bene, mentre ci pensi, Giulio? Non faccio niente di che. Ok. Aspetto, cioè, controllo gli altri. Ma tiro una bomba. Fai due tiri di riflessi. Tutte e due. C'è sta testa di serpente. Uno e l'altro sei. Ok. Quando sono vicini, la testa del serpente scatta. Uno dei due cloni viene ingoiato e l'altro viene sparato un po' a distanza. Cioè viene, praticamente la testa si avvicina, un clone è ingoiato e l'altro si schiva e viene un po' allontanato. Fisco un punto fatica, giusto? Sì. E devo fare una prova. 6 più 3? Sì, superato. Ok, ora il tuo clone è un po' più distante, fa conto a 5 metri dal libro per terra, e gli altri due invece sono allontanati. Non ha subito danni, però. No, ha schivato in tempo. Quindi comunque li ha presi entrambi, anche se... Non so, rega, bisogna segare questo serpente e come sempre non è che i miei cloni siano molto in grado. Se provassimo con la tecnica del drone, Che non abbiamo? No, quella che abbiamo usato per recuperare. Aspetta, i tuoi cloni hanno provato a prendere il libro? Sì, uno è stato mangiato e l'altro è stato spostato. E se invece toccano il serpente e basta senza cercare di prendere il libro? Allora, dico a... E se si mette a urlare? E se tocca il serpente? E Beth, fai un'altra prova per ridere. Esatto, le altre due cloni della stanza non li ha cagati però. Perché sennò potrei... Ma sono lontani dal libro. Anche voi ci siete nella stanza. Più che altro che anche per fargli danno non ha niente, un serpente di pietra. Cioè un... tu prova a far toccare un clone. Oppure tirai un sassolino al serpente. Tiro io. Provo a tirare un sassolino al serpente. Devi avvicinarti però. Devi avvicinare. Mi avvicino un po'. Ok. Non sono interessato al libro. Comunque. Vabbè, il serpente però è dietro il corpo. Intanto se ho tempo io faccio altre, se no, è passato un turno faccio altri due cloni. Devo tirare per, sì, per colpirlo? No, lo colpisci perché è veramente enorme, però il sassolino rimbalza come se toccasse della roccia, fa tipo tic e cade. Okay, ma mi interessa che il serpente non dà, non caga la mossa. Okay, sembra che gli guardi solo il libro. Ha un clone il serpente. Quindi ora sono 5 i cloni. Se ne hai fatti altri 2, sì. Ok. Beh, è uno spettacolo raccapricciante. E... sembra Naruto. Dico a uno dei cloni, di quelli dei sì, due... Fammi sentire però l'idea di Katta intanto. Era fare il lazzo con le corde come abbiamo fatto per recuperare il drone. Arci lo muove. Una volta che arriva dal libro, zac, strattone indietro e lo recuperiamo. Poi chiudi alla porta. Però è molto lontano. Non so se la porta è chiusa per una roba del genere. No, più poi gli scappiamo a gambe levatissime. Problema. Hai capito? È che la cosa interessante è che lui capisce che è Arci a muoverlo, il libro. No, lui vede il libro che se ne va e reagisce di conseguenza. E ha capito che era Arci, secondo me. Non c'è nessuno di voi che può fare. Ok, ce l'ho, aspetta Giulio. Una copia di Arci, certo. Se proviamo a rifarla sta cosa, però ti metto anche i cloni che fanno tipo come se lo stessero prendendo da lontano. È un'idea. Perché? E vediamo se punta a te. No, perché non li manda proprio a prenderli da vicino il libro? Ci ha già provato, uno l'ha mangiato. Mentre io faccio così. Cosa devono prendere? La mezz'aria mentre tu la muovi? Sì. Se lui focussa me che lo sto muovendo, non può focussare il clone che lo va a prendere. Se focussa il clone che lo va a prendere, io lo tiro in verso di me. Prima gli ha peccati entrambi. Perché tutti e due andavano nello stesso punto. Vabbè, possiamo provare. Vogliamo provare? Io mi preparo, allerta. Vi ammazzo tutti. A saltare. Poi io sono io. Capito, Salla? Sì. No, non ho capito. Allora, due cloni di Vez vanno verso il libro? Allora, io dico, allora, Arci, dico di prendere il libro quando sarà a mezz'aria. A due cloni, a quei due cloni vicini dall'altro lato. Quindi due, fanno anche quattro, se riesci. Ne ho 5, però se me li mangio tutti insieme capisci che io pecco una bocca. Cioè, non so che muore, sviene diretto. Per cui è divertentissimo vederlo, però cioè, è un problema. Anche perché sto giochino qua arriva a un certo punto in cui non lo posso più fare. Mi avvicino e provo a toccare il serpente. Non sono interessato al libro. Ok, sei lontano dal libro, ti avvicini, tocchi il serpente. Il serpente è di pietra, sembra di pietra. Sì, no, non reagisce. No. Così okay. Come quando gli hai tirato il sasso non ha reagito. È ovvio che sapete difendere il libro comunque. Capito, però magari difendeva anche se stesso, invece a quanto pare. Cioè, no. Dipende se gli fai dei danni, ovviamente. Vabbè, per il momento. Andiamo a provare sto giochino, però Giulio a questo punto è dentro la casa, dentro, molto dentro. Cioè, Spaccagli la testa manganellata. Mentre... Quello no. Sale su, si arrampica e poi... Cioè, o io ti faccio tutti i cloni attorno a te. Sì, perché se, ammazzi loro e me. Così io non posso neanche saltare. Esattamente, è veramente grande. Esatto, mi spiace che insieme a loro, quello è il discorso. Riga, io quel potere lì. No, il discorso era più ne hai. per distrarlo meglio è, ovvio che se ne vuoi fare solo due fai solo due, però. No, io li posso anche mandare, il problema è che se ne mangia, cioè se li mangia, lo so, il punto del libro, lui se li può mangiare anche tutti e quattro, il problema è che se li può mangiare tutti e quattro, capito? Anche cinque. Quindi io mi becco 5 punti fatica, per voi è divertente, però... Però non cambia molto. Non è una questione di divertimento. No, nel senso che cioè, nel senso che se ne mandiamo due, se hai visto che già due te li mangia, cosa stiamo facendo? Li mandiamo davvero a morire. Che se li mando 5, se ne mangia 5, perché ci stanno 5 nella bocca, questo è il concetto. Quindi è semplicemente ma per se voi il divertimento 5... di vedere vedere mangiare. No, però quello che dice Arce è che se ne mangia 5, intanto Arce ha il libro. Intanto io già il libro. È quel discorso. Ma li mangia in un colpo solo. Sì, vuol dire che in 5 direzioni diverse non è un round normale. No, perché nel momento in cui arrivano dal libro sono tutti lì. O io facciamo uno ma quello che dice Arci è che se anche lui mangia i 5, il libro comunque lo recupera Arci. Almeno credo di aver capito così. Ma anche se ne mangia uno. Questo è il discorso. Sì, ma se sono quindi in 5... perché io devo morire 5 volte se posso morire uno? Uno magari lo inghiotto in un nanosecondo, 5 comunque devi masticare. Va a culo. Sei risposto da solo. Vabbè, cioè, come dire, il tempo... è più divertente morire una volta o 5 volte e poi svenire e poi noi che ti picchiamo e vedi di più a mangiare un hamburger e poi noi che mettiamo il libro sul tuo corpo svenuto e vediamo cosa succede. Beh, non è un concetto complicato. Mangiare un hamburger ci metti 2 secondi. 5 ci metti il concetto è questo. Il libro è qua. E questo qua, va bene? Quindi tutti devono andare su questo punto qui. Ora, lui mangia questa roba qua. Se ci sono altri, ci sono 5 dadi. Magari dopo la cioè, se li mangia tutti in 5, vedi, arriva. Ah, se ne sono mangiati 5. 5 punti fatica vezza. E poi, sei! Però a parte questo, non succede niente. Cioè, io non faccio il potere apposta. No, il discorso è questo. Cioè, se la possiamo, quello che possiamo fare è tu sposti il libro, io mando un clone, lui si mangia il clone, tu continui a spostare il libro. Io mando un altro clone, lui si mangia il clone, tu continui a spostare il libro. Tu prendi dei punti fatica. Il fatto è che il serpente 2 secondi fa ha cercato di ammazzarmi. Sì, ma quindi io non rischio. Poi è geniale di mandare un clone solo. Vai, sì, Giulio. Sono 5. Dai, mentre voi fate sta cosa. Iniziativa, Arci. Ah no, scusa, no, Giulio. Non avevo fatto uno. Però sei tu che hai preso l'iniziativa. Vai. Nel senso che vuoi che lanci, che tiri iniziativa o faccio? No, fai. Allora, tu sei attaccato a lui. Si parte la tua iniziativa. Giusto? Sì. Okay. Cioè che 1 o 5 non cambia per te. Invece cambia. Cambia per me che prendo 5 punti fatica invece di 1. Allora, a parte che i cloni non sono coordinati. Non è che tu dici date 5, loro 5 alla stessa velocità, fiondano come se fosse una specie di... Beh, se vanno insieme, vanno insieme. Capito? C'è un punto se ne mando prima, uno. Allora, mentre lo tocco... Mi fai partire da distanza differente. Sto pensando a sentire Giulio. Come distruggere la pietra. Ti mangia, ho già fatto. Guarda un attimo il cellulare. Fai partire da distanza differente, capito? Vuol dire che uno arriva prima di un altro. E dove compare una formula. Cosa hai fatto? Ok. Che recito. Ok. E faccio produci sostanze antimateria. Va bene. Il materiale scelto subisce tanti danni per round pari ad un tiro andato a controllo per 2. Me lo io. Ok. 1. 8 per 2, 16 danni a round. Credo che... 6. Sei con 6. Scusa, sarà 60 però. Sì. Quindi no, sono 120 danni a round. Beh, comunque hai detto la cosa giusta. 6 per 12. 2, 12. Comunque hai detto 8 per 2, 12. Quindi 12 era corretto. 16. No, aspetta, scusa, sono 16, 12 6. Danni o 120 danni? No, 12. Ah, e qui c'è... Sicuro? C'è scritto 2. 12 danni a round? Se aspettiamo 20 anni muore. No, ma è qualsiasi materiale, non c'è durezza, okay. Se no ha vedi durezza. Che, ok, il primo round vedi che lo attivi e in effetti... E poi mi allontano. Okay. Non devo essere... Vedi che lo attivi e in effetti la pietra si sta un po' consumando. Scomparendo, come preferisci. Non fa niente, serpente. Tocca cioè, dovrebbe darci. Scarica di energia, ucciderci tutti. Sì, Mike, tocca darci. Beh, se non fa niente possiamo anche aspettare 3 anni e vederlo di comporsi. Io poi non posso usare 2 poteri insieme, deduco. Ma non sappiamo. Neanche se prendo punti fatica, vero? No, è vero. Non lo stesso round. Però avete sentito che ho detto qualcosa. Io provo a dire. Provo a dire. Vez. Sta farneticando. Provo a mandare un clone. Ah, quindi normale. Prova a mandare un clone mentre io vedo se si può distrarre il serpente. Prova a fargli attacco psichico al serpente. Allora, aspetta, fammi okay. magari Vabbè, oh, raga, cosa devo fare sul libro? No, io sto provando a usare il mio attacco psichico sul serpente. La formula della magari materia. Funziona. Dico, se funziona, manda un clone a Raggio subito. Sul libro? Sì. Ok. Se funziona l'attacco psichico, se vedi che il serpente fa così con la zampa. Cosa devo tirare dallo controllo? Sì. Che cosa vedo? Qual è il segno? Quanto hai fatto? Uno. Ora tira mente. Quanti punti psiche hai? 6. Quindi vai a 5. Fai una prova di psiche. 4. Ok, superata. Però hai 5 punti psiche. Ok. Arcibo si concentra, non so, descrivi. Mi concentro cosa? Mi pesto il piede? No, nel senso, descrivi la scena, non so. Beh, prova a controllare il serpente, ma di... Ok, cioè gli altri non vedono niente. Controllare il serpente di pietra. Okay. No, lo dicevo perché gli altri non vedono niente, ok. No, vedono me con gli occhi bianchi. Infatti, ma Arci lo mando, quindi, sto clone o no? Vez. No, perché il serpente lo vedi lì. Il serpente lo vedi proprio come se non avessi fatto niente io, quindi va no. Va bene, io provo ad annodare un lazzo con le corde che abbiamo e lanciarlo. No, aspetta. Vez, fai qualcosa. Dico ai cloni di raggrupparsi in un punto non troppo lontano dal serpente. Ok, tira. Tiro 5 dadi. Mi sarei colpando in un punto. Allora, 2-2, un 1 e un 2-4. Ok, ai 5 cloni dici, voi radunatevi tutti in un punto e vedi che 4 partono, uno sì. Ti guarda e fa... Vieni con me, è vero? Aspetta il prossimo round. Vieni con me, è vero? Sì. E tocca a te, Katta. Faccio il lazzo e poi, se ho tempo, lo lancio, se no lo sì, lancio. Lancialo, però deve essere molto lungo. Uso la corda che abbiamo per scalare, saranno metri e metri. Sì. Beh, così un clone è un'altra posizione. Dobbiamo lanciare una corda di 8 metri, ok. Tira su fisico. Che volevo. Sei. Oh, vado in palestra ad Arci. Arrivi con un libro. Ripeto la mia. E aspetto. E aspetti perché il serpente tocca a lui. Scusate, un onore, capo. Dà un morso fortissimo alla corda che si impiglia. E tu puoi tirare usare la tua reazione per lasciarla. Ma posso lasciarla automaticamente? No. No. Deve tirare. 4. Ok. Lasci la corda al volo prima che di essere strattonato. Praticamente fa uno scatto velocissimo e gli rimane praticamente ancora la corda che penzola dalla bocca. Ok. Tocca a Giulio. Guarda, Giulio se c'è un... No, no. Niente, scherzando. Vabbè. Io non cercherei di prendere il libro prima di aver distrutto sto cosa. Bella azione. Hai un'idea su come distruggerlo, sì, Giulio? Ci sto provando, ci metterò un po', però... Non hai altri modi? No, dico già aggiungere. No. Cioè, devo distruggere della pietra, comunque. Non è facile. Passami il piccone. No, va bene. Aspettiamo. Ci sarà da aspettare parecchio, mi sa, però va bene. Ok. Quindi fai 12 danni al busto del serpente. Sì, per rango. Beh, comunque sono 120 danni al minuto, Sì, ma ogni 6... Quanto lo può tenere? 6 secondi... Non lo può tenere attivo. Cioè, 6 round, poi devo smettere e poi rifarlo. Non lo so, Ray, vogliamo fare qualcos'altro? Salla! Hai letto? Salla, voglio controllare nelle pareti se ci sono dei meccanismi, dei tasti per spegnere il coso. Ok, allora, aspetta. Quindi voi adesso state per 6 round a aspettare Giulio, giusto? Aspetta, cioè, c'è qualcos'altro che possiamo fare? No, mentre lui fa potete provare a venire qua a picconare. Voglio controllare nelle pareti o sotto i tavoli, sotto delle qualcosa, cercare per bene che non ci sia un eventuale meccanismo che possa disattivare il serpente. Ok, quindi ok, in 6 round tu fai questo, gli altri? Esatto. Beh, direi che posso aiutarlo con i cloni. Aiutarci. Sì, dico ai cloni di aiutarci a cercare questa stanza. Tiro 5 da di controllo. No. Vabbè. Diciamo che la media è che per 6 round più o meno tutti ti seguono, magari uno un round un po' meno, però. Mi serve una calcolatrice, però. Allora. Ok, catta. Se tiro la corda, c'è qualche reazione? La corda l'hai lasciata. La corda è penzola per aria? Sì, ma è abbastanza lunga da riprenderne un lembo da terra. Devo avvicinare molto al libro. Facciamoci mangiare. No, dovrebbe essere tipo 50 metri. Sì, cioè quella però che la sua testa è sul libro, quindi ti deve avvicinare parecchio al libro. No, ma perché? Scusa, lui ha la corda che è attaccata alla sua bocca, no? Metà l'ha mangiata, Sad sta dicendo che non è lunga per terra, che striscia, ma è proprio appena... Ma il buco che ha fatto per terra, è cioè, non è che c'è un... Cioè, non è... Cioè, semplicemente è tipo un'ammaccatura. Ah, ok, posto. Ok. Ah, puoi farlo, Katta, ti dico, ti devi avvicinare un po' al libro. Ah, vabbè, vado a vedere l'altra porta. Ok. Allora, facciamo prima Giulio che mi dici quanti danni fai in 6 round. 12 per 6, giusto? Sì. E poi si disattiva. Aspetta un secondo che sto guardando se posso prendere durata estesa e quando la estendo. Quindi sostanze... durata prolungata... Quindi Sollino? Aspetta che facciamo prima sta cosa. Beh, vabbè, intanto facciamo che intanto hai fatto questi 72 danni. Sì, intanto ho fatto questi. Ok, allora, Arci e Vez tirate su cercare. E i cloni cosa faccio? 4. Quindi 6, no? Sì. Tiro anche per i cloni? No, tira tu e prendi un più 5. Quanti ne hai? 5? Sì. Ok. 3 più 5, 8. Ok. Allora, non trovate meccanismi, non trovate niente, ma... Niente interessante. Aspetta. No, però trovate... Allora, 2 punte di frecce. Ok. Un sacchetto. E qualcuno deve segnarsi ste robe. In un angolo dietro al serpente. Una? E in quel sacchetto ci sono delle monete d'oro. Loot senza sconfiggere la bestia. Una boccettina. Allora, aspetta, 2 punte frecce sacchetto. Che era quello, questa non va. Sacchetto con monete d'oro. No, vabbè, sacchetto oro. Monete oro. Una boccettina. E una piccola gemma. Catta, tira gemma. E una boccettina. E una boccettina. Tanto ascolto che cosa si sente dall'altra parte. Allora, dall'altra parte non trovi niente. Non c'è nessuno. Allora, niente. Poi abbiamo le due urne. Aspetta un attimo. Io prendo... No, mi sono perso quando hai detto se questa porta qui che ho davanti è la stessa che vedevamo nell'altra stanza. Più piccola. Ci assomiglia. Sì. Solo bello. Uno. È impossibile che sia la stessa porta. È la stessa porta. È la stessa identica porta. È la stessa identica porta. Vabbè, intanto vedo se è chiusa a chiave. Sì. Va bene, allora provo a fare il mio giochino per aprirla. Per liberarla. Per aprirla, per scassinarla. Poi non la apro. Ma scusami, tu pensi che sia la stessa che porta gli zombie e la stai aprendo? Non la sto aprendo. La sto scassinando. La stai aprendo. Exp. Che gli zombie attacchino il serpente. Che cazzo fai? Exp, fa exp. Hai mai giocato a Skyrim? Ma che cazzo fai? Fa exp. Cioè, ma probabilmente non è la stessa, però pensi che sia la stessa. La ma non l'apro, ho detto che la scassina. Fa così, dice, state fermi. Di fatto, per uno tanto, ma state tranquilli. Per uno che è dentro non cambia niente, sì, non crederà so. Sempre che è chiuso. 4. Sono troppo che apre. Fai che ce l'avete. Hai bussato. Io avevo detto, c'era lo stupido. Ah! Non apri scassinandola così. Non ho capito niente. Non la apri scassinandola con i tuoi soliti cose. Con il mio potere non funziona. No, no, devi usare il tuo potere, forse. Uso, sì, ho detto che lo uso. Vabbè, ti serve un minuto, Giulio. Quindi io prendo durata migliorata, no, durata estesa e frequenza migliorata. Ok. Super potente. Nel frattempo dura ad 80 round la cosa, quindi si becca 6 danni. Aspetta, quando arrivi a 200 più o meno, sì. Vedi che il serpente gira la testa verso di te. Mi allontano di brutto. Togli il potere o lo lasci? Eh? Aspetta, gli altri cosa fanno nel frattempo? Se il serpente, quanto tempo è passato prima si gira verso di Giulio? Un paio di minuti. Se il serpente si gira verso anzi, di no, Giulio, no, meno, perché sono quanti round sono? 80 round, no, per 200 danni, 200 diviso 12 round sono 16 round e qualcosa, 17 round. Sono 6 secondi a round. Mm-hmm. Sì. 100 secondi. 2 minuti. Approfondato in sash. State beh, ancora sì. Cercando. Vabbè, ok. In giro. Ok, non è apri la porta intanto. Il mio clone più vecchio ha tipo 3 minuti, no? Sì. Ok. Poco di più. Eh? Di poco più. Di più. Ah. Sbircio con proprio un filino della porta, metto la luce per vedere cosa c'è dentro. Cadaveri. Paglia, cassa. La richiudo. Ho trovato il caso. Ma scusa, quindi ho fatto uno, però avevo ragione. Così ti ho fatto la supercazzola e non sapevi se aprirla o no. Ma erano piuttosto sicuri che fosse la stessa cosa. Magari sono due stanze uguali. Cioè, io ero sicuro, però in realtà la tua ho fatto uno. Vabbè, perché fai del metagame di merda, Bezzo. No, ma io ero sicuro che fosse quella. Infatti mi ha fatto ridere che anche Kat era sicuro che fosse quella e l'ha aperta lo stesso. Beh, ha preso i punti esperienza per scassinare. Ma non so, credo che funzioni così. Utilizza il suo potere, comunque Kat hai un punto fatica. Sì, l'ho segnato. No, un in più, credo. Sì, un in più. E fai una prova fatica. Sì. Ah, 4. Superato. E quando ho sbirciato dentro si vedevano gli zombie di prima? Sì. Ok. Cosa stavano facendo? Aspettando che qualcuno aprisse la porta. Fermi immobili così? Sì, sulla porta. Ne avevi uno davanti però. Ok, richiudo e... Così. Che è quello che Vezza ha mandato, ha tirato col clone. Ti ricordo. Ah. Va bene. Ok, dicevo Giulio, quando più o meno hai fatto 200 danni, il serpente volta la testa verso di te. Ora tocca a te e mi dici se interrompi il potere o lo tieni. Corro verso la porta, ma lo tengo. Ti muovi di 6 metri e mi tiri su riflessi per schivare o parare. Parare? Riesci a parare? Oh, un dente. Non me ne intende, però secondo me parare è l'azione da non... Schivo e uso psiche. Ok. 9. Schivi un colpo. E prendo un altro. E no, e basta, e poi tocca a... Ad Arci. Arci, tu hai visto che la testa del serpente si è mossa all'improvviso. Giulio ha cominciato a correre e gli ha fatto un pelo bestiale a Giulio. Io posso, mentre vedo che lui si prende distratto, posso provare a prendere il libro. Puoi provare a prendere il libro. Tira su. Ma se lo sposti più in là, intanto la prova di psiche. Lontananza. Sì, ma tanto lei quanti punti porta? Hai? 5. Verso la porta d'uscita. 5 più 4. Quale è questa? Da dove veniamo? Ma io sono già qui. No, io sono qui. Tu vuoi buttarla qua? Noi siamo in giro, non so esattamente dove siamo. Sei evidentemente a 8 metri dal libro, però... Verso l'uscita, insomma, in generale. No, allora, aspetta. Tu ti muovi a 8 metri dal libro. Ci sarà adesso, questa stanza sarà grande, però 8 metri dal libro ci sarà già, no? No? Percentuale. E che cazzo se ne è accorto? Sì, sei a 8 metri dal libro. Quindi usi il tuo potere e lo attiri a te. A che velocità si muove, scusami? Io in che zona sono della stanza, non lo so, immagino. Tu sei a 8 metri dal libro e quindi a un 12 metri dall'entrata. Allora lo lancio verso l'entrata. Sì, ma di quanto lo puoi muovere? Di... Non tanto, eh. No, credo sia tipo sempre tipo 4 metri. Telecinesi? No, non lo so in realtà. Telecinesi, sposta gli oggetti muovendoli tanti metri per round, pari alla media del dado controllo, quindi 4 metri si muove. 4 metri. Ciao. Prendi un punto fatica e fai una prova di fatica. Però lo muovo di 4 metri verso la porta? Sì. Però prendi un punto fatica e fai una prova di fatica. Sì, potresti provare a prendere le sembianze del professore. Tre. Magari il presepe ti riconosce. Quanti punti fatica hai? 3. Questo è il terzo. Okay. Ricordo che tu in questo momento sei distratto. Quindi perdi un'azione tra reazione, movimento o azione. Adesso? Prossimo, cioè il prossimo round tu dovrai fare un'azione in meno, cioè una di queste tre in meno. Tocca a Vez. Dragon. Il serpente si sta spostando verso l'entrata. Il libro sta spostando verso l'entrata? Sì. I 4 metri. Anche Giulio. Quanto sono dal serpente? Giulio va verso l'entrata, il serpente segue Giulio e lui ha spostato il libro verso Giulio, quindi verso il serpente. No, non è la stessa distanza di Arci. No, lo sto spostando verso in qua. Giulio era dietro. No. Io dico... Sì, io... Non ero dietro, ma adesso sto correndo perché il serpente mi ha preso un attimo di mira. Quindi il libro è sul serpente di nuovo. Non è stato molto. Solo che non abbiamo un cazzo con cui colpirlo. Range, questo è il problema. Range, no? Non sta arrivare, cioè, non è che sono al libro qua. Lui fa... No, però essendo grandissimo, il movimento è molto più. Nel senso, dico, magari metro dopo metro, botta dopo botta. Forse un po' riusciamo a tirare via il libro, quello voglio dire, dal range della picchiata. Dico, sì, no, quello che dico io è che il serpente si muove. Quello che dico io dico è di mettersi da due punti di mettersi. Ma non ho capito se ha la base tipo per terra, è una testa che esce o se è un'anaconda che gira per la stanza? No, è cioè la base è per terra dietro al libro e occupa praticamente tutta la sezione dietro. E per ora è ferma, si sta spostando solo il collo con la testa. Ok. Allora, dico a due cloni di seguire il libro e agli altri tre di salire sul serpente. Ok. Giulio? Perché il potere sicuramente per attivarlo devo modificare l'oggetto. Di prendere il libro e di allontanarlo. Ma per tenerlo attivo devo continuare a adesso il libro è mezz'aria. Si capisce. Allontanarlo di più. Se ha contatto, sì. Allora si è interrotto, cioè non ne subisce più gli effetti, il potere è ancora attivo. Allora, ok, allora facciamo così, a uno dico di prendere il libro e portarlo fuori dalla stanza e all'altro clone che va i cloni si muovono di 6 metri a round. Sì, ma hai fatto 200. Sei a 8 metri dal libro, quindi devo usare due movimenti e arrivare lì, ok. Poi io sono scappato. Ok, e l'altro gli dico di seguirlo. Qua aspettare un attimo a distanza di un paio di metri, seguirlo. Dovrei e gli altri tre di salire sopra. Anzi, altri due di seguire sopra e uno sta con me. Però non ti punto esperienza. Uno lo tengo bonus. Lo tengo lì. Dice 48. Ragazzi, quindi 2 e 2. 2 quelli che vanno al infinito. 6 e 2. E 2 che vanno sopra al serpente. 4 e 6. Ok, allora, quelli che vanno sopra il serpente cominciano a scalare il serpente dal lato. Ok. Il serpente si muove, no? No. Verso Giulio. Uno arriva al libro. Sì. E lo prende, immagino. Lo prende e deve correre. Ok. E quell'altro lo segue dietro. Deve correre, lo prende. Già è tanto che ci è arrivato. Ah, ok, va bene. Cioè, e sono 8 metri, quindi. Sì. E quell'altro gli è di fianco. Sì, cioè un po' dietro, in realtà, Katta. Un metro, un paio di metri dietro. Tu, Katta, sei nell'altra stanza. Sento del casino venire. Sì, e hai un dito a forma di chiave, tra l'altro. Forma di chiave. Cioè, probabilmente c'era qualcosa per disattivare il serpente. Ah, no, cazzo, so, poteva lanciarlo. È. Esatto. Vabbè, adesso vediamo se c'è. In questa stanza non c'è nient'altro oltre alla buca per terra e le due porte. E... no. Quindi fronte a chiuso. No, ci sono le bocche sulle pareti. Cioè le facce sulle pareti. Facce sulle pareti. E esamino queste facce per vedere di trovare qualcosa di utile. Due. Sono facce. E Giulio? Il serpente mi punta ancora. Non ha ancora agito dopo averti dato il colpo. Scappa, Giulio. E mi allontano ancora. Brucia il trono di Vez con il libro dentro. Infastidiamo sto serpente. Non so perché è scritto materiale. Cioè, ok, la carne è effettivamente materiale. Quindi se io tocco una persona. Perché devi bruciare il mio clone in questo momento? Perché me Ok, il serpente. Certo, Arci. Vai. Allora, uno di voi tira un dado. Uno prende il clone di Vez col libro. Due prende il clone di Vez che segue quello col libro. Tre. A due metri. Arci. Okay. Come Arci. Uno di voi tira questo dado da 4 e se fa 4 ritira. Lo tira l'as. Okay, tira un dado da 3 allora. Ma io non ci sono. Tira un dado da 3 allora. Tira un dado da 6 diviso 2. Tira un po' quel cazzo ti pare. Tieni, anche perché da 3 non esiste. L'as. Cosa devo fare? Sale nello schermo, ma tu sei qua. Alto basso. Non quello col libro. O 2 o 3? 2. 2. 2, perfetto. È che è 1 però. Sì. Perché mi hai detto di fare 2. Lo so. Ho sbagliato. Dovevi fare 3 o 4. Quello col libro. È quello col libro. Allora. Deve fare un tiro per schivare. Sì. Può parare se vuole. No, direi che schivare va bene. Vieni. Sei. Uno. Muore. Uno. Prende però non un po' il libro. Allora, il libro cade a terra. Lui cade a terra. Prende 90 danni a... Morto. Qualunque cosa sia al braccio e al busto. Qualunque cosa sia morto. Ci sta facendo capire che in realtà noi un corpo un beccato lo reggiamo. Non credo. Non credo. Ho tirato abbastanza fare basso. Una prova fatica. Dove scio quando serve? E ho fatto 4 e ho 4 punti fatica. Cosa vuol dire? Niente. No, comunque. Però sono un po' al limite io, rega. Il libro è caduto a terra ed è comunque lì vicino a un clone di Vez. Tocca a Arci. Io cos'è che non ho? Cos'è che non hai? Non lo so. Una reazione, cos'è che hai detto? Dai il libro al clone di Vez. Non deve raccoglierlo per il turno con dopo. L'azione, il movimento o la reazione? Una di queste tre. Con la telecinesi dai il libro all'altro clone di Vez, così non deve fare azioni per prenderlo e può scappare. Anche. Posso provare, però il serpente poi mi scoglia la vita. Lo dai al clone. Come lo lancerà? Sì, ma il tiro di a quant'è la porta? Una dozzina di metri. Io faccio così. Io ho un'azione e un movimento, no? Se rinuncio alla reazione, giusto? Se rinuncio all'azione, hai la reazione e il movimento. No, se rinuncio alla reazione ho azione e movimento. Salla, una domanda. I miei cloni sopra cosa fanno? In questo momento sono saliti sopra. Ah, non devono fare un tiro per riuscire a restare su. No, ma non sono, stanno salendo, non è che sono solo. Io passo il libro al clone di Vez. Ok. Prendi un po' di fatica? Sì, come azione. Facciamo no, aspetta. Se ne metto uno in bocca, non riesce a mangiare altro. Controllo il libro perché il tizio l'ha preso. Cosa? Non so se perdi, cioè, il tuo potere che durata ha? Prolungata. Boh, secondo me è ancora attivo, no? Però ci dobbiamo inventare qualcos'altro, sì, rega. Allora lo passo a Vez. Al clone di Vez. Non lo voglio, non lo voglio. Allora, quanto puoi modificare? Addio. Ah, cosa? Non lo voglio, non lo voglio. Quanto puoi modificare le due parti del corpo? Non puoi farti le braccia lunghe, no? Non lo vuoi fare. Appoggio, metto il libro tra le gambe di Vez. Guarda che la bocca del serpente è così grande che se dovesse morderlo prenderebbe tutto. Non è questo che sto provando a spiegargli, a darci da no, gli lascio il libro al clone di Vez. Ok. E poi? Sembra no, sai una dinamite poi... di e poi bang. Faccio 8 metri fuori dalla stanza. Sì, cioè ti vai verso che è la porta. Ho capito, vai. No, sarà... è tipo 20 metri. Cazzo, te lo lascia! È tipo 12 metri. E poi a parte carci ti muovi di 6 metri, non di 8 metri. E lo no, è l'azione football! Carci ti muovi di 6 metri, non di 8 metri. Basket, sì, adesso proverò a usarlo. È riflessi. Non so quanto posso lanciare là un libro. Adesso proverò. Allora di 6. Facciamo una prova. Sei più o meno a 6 metri dall'entrata. Stai pesando. Vez. Panico. Allora io dico al mio clone che ha il libro di lanciare il libro più in là che può verso la porta. Ok, tira fisica. Fermati, non puoi devo fare tirare il potere metri, prima non puoi fare i 6 metri di aspetta, clone aspetta che ti diverti che faccio uno col clone che non fa un cazzo. Ma ogni azione che gli dici di fare direi di sì, credo, no? Sì, sì. 3. Ok, Salla, scusate, ma il clone può fare 6 metri di movimento e lanciare il libro? Sì, certo. Sì. Allora se può lo fa. Tira. E posso tirare basket per il lancio? Lancio bene. Come se fosse va bene, parte altro del campo. Era un libro. Usi basket per il lancio baseball? Si chiama lancio baseball, quello che ha prendi da sotto e lanci da una parte all'altra. Fare lancio lungo, no? Si chiama così. Mentre vuole senti le pagine, no. Però è un lancio della pallacanestro. Cioè, in realtà la grandezza del libro è più simile a quella della pallacanestro rispetto a una palla da baseball. Tira, Vez. Cosa tiro? Un D8? Un 3-24, sì. Ma non posso usare psiche su un clone, però. No. 8! Libro avanza di 8 metri. Parci! Sono così intanto, sono così. No, allora il libro esce dalla stanza perché lo tiri a 8 metri fuori dalla porta. Boom! Gli altri cloni fanno qualcosa. In questo momento Katta sta aprendo la porta per vedere. E no, c'è Katta lì che cerca nelle bocche e si gira e vede... È un libro, capito? Chissà cosa vorrà dire. Pezzo gli altri cloni. E allora colpiscilo, pestalo. Hai tre cloni. Digli di mordere la pietra. Non so cosa possono fare, rega. Cioè, sono sicuro. Continuerà, se non gli urlare, dico, loro continuano a salire se non gli dico niente, quei due. E all'altro gli dico, seguimi, e ci spostiamo lungo la parete verso l'uscita. Sì, ma devono distrarlo, digli tipo di urlare, siamo schiavi. E voi gli altri... ma che cazzo ci serve? Cioè, vabbè, gli dico, li sta già salendo sopra... Cioè, tu ti immagini tipo la stanza piena di Vez? Va bene, io e l'altro gli dico, seguimi. Che capriccio. Grazie che sono vestiti. 4 per dirgli di seguirmi. E io e clone andiamo seguendo la parete, cioè lontano dal più lontano serpente possibile verso l'uscita. Ok, Katta, hai sentito il libro che... Vicino. Cioè, in realtà io i due sopra li avevo mandati per vedere se si distraevano da Giulio. Cioè, distraevano da Giulio. Lucertole quanto serpente. Sì. Passo, prendo e corro verso l'uscita. Vabbè, passi e prendi il libro. Poi. Allora Giulia. Aspetta. Catch di Katta. Non è così lontano. Tiragli un calcio verso l'uscita. È un'azione raccogliere il libro. Però un calcio. La tua azione è muoverti e raccogliere il libro. Raccogliere il libro è un'azione. È parte del movimento. E può fare un movimento e l'azione un calcio. È qua il libro ora, no? Sì. L'azione prima è un movimento calcio, e il esatto. Un calcio, sì. E l'azione è il calcio che lo lancia nel corridoio. C'è una buca in fondo ai piedi. Non buttarlo nella buca. Puoi calciarlo, Katta. Se fai prendi uno, la buca rido fino a me. Non è per mettere in dubbio i pedotti calcisti. La scarpazzata di Katta che la lancia direttamente dall'altra parte della stanza del serpente. Degli zombie. Lo prende e fine. Cioè lo prende e tanto non vuoi che le teste si animino. Sì, ti rivolgo a sottolineare. Dai, lo vediamo. Quando questa sala, se il serpente si muove. Al massimo ci proteggiamo col serpente. Al massimo il serpente smetterà di cagare noi. Vediamo che cazzo. Dai, va bene. Oppure si sta. La porta è scardinata, quindi cioè l'hai aperta male, quindi non si può richiudere. Non è quando è le faccio, quando dai, prendi sto libro e poi usare il Giulio. Continua a correre. Hai visto la mummia? Okay. Ha preso il sei libro all'entrata della stanza. Uccello, sei all'entrata della stanza. Katta ha preso il libro? Sì. Io Katta telare. Sta bene. Il serpente? No, sta al clone che ha lanciato il libro. Sì. No, il serpente? Sto attento a non toccare nulla. Schivare. Sì. Beh, vabbè, buono. Uno. Sì, ma ormai dura tanto. Lo voglio finire. Distruggere il corpo. Cosa, fatto devo bene? Fare una prova muore di fatica io. Prende 150 danni sì, al busto e alla gamba destra. Chi è che lo sta attaccando? Il serpente? Sì. Beh, ha fatto il suo lavoro. Ora devo fare una prova di fatica, però. E per la prova di fatica non posso usare la psiche, giusto? Non lo so, sì. Però secondo me non conviene. Non lo so, ho 5, quindi no, sicuramente la fallirò. Vabbè, sì. 3, fallita. Cosa succede? Cioè, fallita di 2. Sì. Manuale. Sei distratto, come Arci. Onda. Che vuol dire? Hai un'azione in meno. Cioè ho un'azione, una reazione, un movimento, uno di questi tre li devi rinunciare, giusto? Un'azione, una reazione, un movimento. Tocca a te. Io a sto punto corro fuori dalla stanza, vedo Katta col libro in mano e gli dico: Katta, il serpente di pietra gigante che tu non hai visto ma che è di là, insegue questo libro. Quindi corriamo fuori da qua. Ok. Vez? E corro. I cloni? E i cloni li lascio lì. All'altro gli ho detto di seguirmi, continua a seguirmi. Gli altri... è un'azione, quindi non posso farla. Beh, puoi togliere la reazione. Sì, ma me la tengo la reazione. Grazie. Ok. Quindi i cloni cosa fanno? E i cloni... quelli due sì... e quell'altro continua a seguirmi. Canteranno una bandierina sulla testa del serpente quando arriverà. E Katta. Scappo fuori, uso il movimento, sposare anche l'azione per raddoppiare il movimento. Certo. E lo faccio. Ok, esci dall'altra stanza. E ultimo, Giulio. Esco dalla stanza. Perfetto. Allora, uscite tutti dalla stanza correndo. Sì. L'ultima cosa che sentite è un boom, il muro si è sfondato e la testa del serpente è entrata nella stanza, ma voi ormai avete telato fuori e immagino usciate proprio da tutta la grotta. Sì, sì. Quando trovate nella stanza... Il serpente ha sfondato ha sfondato il muro delle quattro bocche. Io quando sono fuori dalla portata, diciamo, rinuncio alla reazione per disattivare... Vi ritrovate tutti nella stanza del tranne dove c'erano i pittogrammi, i disegni. Sì. Prendete tutti un punto fatica. Devo fare un'altra prova. Beh, nel frattempo comunque 6 6 su 6. Ok. Posso fargli vedere la foto che mi ha mandato Giulio? Sì. Yeah. Salla, devo dirti. Avevi mirato il busto, Giulio. Devo fare una prova fatica anch'io. Guarda che a fine cosa lo distruggevo. Sì, gli mancava due terzi di vita. Gli mancava. Se sei arrivato a 200, lui ti tirava un colpo e esplodevi. No, ho capito, ma immagino che se l'avessi fatto alla testa non sarebbe arrivato a 200. Alligatore preistorico. La testa ha 300 di vita. Sì, ma non sarei arrivato a 200, sarei arrivato cos'è a meno. Cos'è armatura 60? Sì, ma la testa è molto più lontana del busto. Mente 1 però, rega, era un po' debole. No, è chiaro. Nel senso è, se io avessi fatto il potere in su un'altra locazione, se la locazione aveva meno danni del corpo, si sarebbe attivato prima dei 200 danni. Ah no, oh. Sì, no, quello che dicevo a Laz mentre hai cominciato è che ha voglia. Ci voleva ora. No, ci volevano 8 minuti. Il tempo del... Sì, sì, sì. No, la differenza è che bastava che lui si voltasse, ti desse un colpo e esplodevi. Ah beh, certo. Beh, in verità, se l'avesse saputo prima, sarei potuto legare, lui non avrebbe potuto. Lui è che lui, cioè, lui se ti schiaccia tipo contro il muro, lui fa un D12 per colpire. Quindi allora, dopo i danni sono 2 di 6 per 30. Beh, noi tiriamo dritto e andiamo in mano. Se mi leggo su di lui non mi può colpire. L'unica cosa che non abbiamo fotografato è il serpente. Sì, mi deve peccare. Direi che quello che stavano proteggendo i cosi li ho lasciando. Allora, vi dicevo, vi ritrovate nella stanza dei cosi? Secondo me ci potrebbe essere qualcosa sì? di importante. Anche sì? Se riclicchiamo la figura del tizio che lancia il aspetta un attimo, mi sa che siamo una no. stanza prima. No, sopra dei... Uscite nella stanza e sì? Il varco, la porta, si richiude. Sì, si chiude? Cioè, sì. Ci lascia dietro, ci lascia... Si chiude davanti a noi? Dietro di voi. Ah, beh, sembrava tipico in verità. Niente, vi ritrovate quindi in quella stanza dove avete cominciato col libro in mano Katta e concludiamo qua la puntata. Sì, abbiamo raccolto un po' di roba, abbiamo le due urne, abbiamo la gemma, le monete d'oro, la boccettina. Giusto per curiosità, il libro è leggibile? Abbiamo fatto tutto sto casino. Lo scopriremo la prossima puntata. È tutto bianco, è per disegnare. Esatto. Le pagine sono marcite. Cazzo, comunque ce l'avevi di brutto il titolo per questa. Perché? Potevi mettere tipo il guardiano strisciante. Ma no, spoiler. Vabbè. Comunque Laz, vedi, te l'avevo scritto. Sì. Diversivi e basta, era easy. Non c'era un altro modo. Non c'era un altro modo, no. Perché beh, quello che abbiamo fatto comunque. Sì, era quello, ma l'avevo scritto all'AS tipo prima, quando siete arrivati. Anche Katta non mi ha ascoltato, bastava fare delle copie del libro. Lì per terra. Sì, sì. Questo. E praticamente quando siete entrati l'AS mi fa, ma sì. Che stronzo, gli ho detto, guarda, diversivi e hanno fatto. E infatti... Vabbè, sì, non avevamo... Cioè, l'alternativa era... trovare qualcosa che potesse bloccare la sua bocca, ma penso non che c'era. Non c'era. Non c'era perché quello lì ha 600 punti ferita e 300 alla testa, no. Fa un male porco e quindi vi sciottava. Quindi l'unico modo era quello, infatti avete fatto. Boom, con un lancio perfetto per Katta. Meta! Hai anche nutrito il serpente con le sì, sotto? Sì, abbastanza direi. Va bene, e vabbè, se vi interessa nella per stanza degli sì? zombie... Sì? C'erano altri oggetti? Ma non siamo... Magari anche qualcosa che poteva aiutarvi in quella stanza lì. Chissà. Beh. Io lo voglio sapere. Tutto il fuoco. Vabbè. Sì, sì. Che probabilmente però se Giulio avesse dato fuoco non vi avrebbe aiutato. vabbè. Non si saprà mai. Sì, comunque dobbiamo girare almeno con qualcosa che assomiglia a un'arma ogni tanto. Di solito voi siete armati fino ai denti. Ma io non ho le armi. Cazzo, te avevi l'altra volta avevi arco, tiravi con la bocca. Un'altra sparavi con un fucile. Poi intanto con gli occhi lanciavi poteri. Scusate, è andata bene così, no? Cioè vi ho messo l'unico ostacolo sì. Era invece che scontro, se no voi sareste andati diretto, spariamo sul serpente. No, il serpente, il fucile non avrebbe cambiato niente, non molto. No, il discorso è che sono stati armati, probabilmente i zombie erano tanti, erano 12. Allora solo Giulio con i suoi poteri poteva. No, gli zombie anche lì ci stava, secondo me, di fare pesca su una porta e entrare dall'altra. Esattamente. Era ovvio, però ce li ritrovavamo nella stanza mentre scappavamo. Vabbè, mi è venuto in mente che adesso al volo. È la prima... cioè, non è detto che non ci possiamo tornare. È la prima cosa che mi è venuta. È detto, te lo dico io. Non è che ci voleva un genio a porta di prima. E quindi? Probabilmente. Comunque no, grazie Giulio. Però se vuoi ci puoi andare, ci puoi mandare, ci mandi le foto. No, non puoi riaprirla, dopo te lo spiego perché, ma Cioè, ho crollato tutto. Okay. Perché la caverna di Chauvet, esatto, è stato bello. C'è il professore che ci dice grazie per aver fatto la fatica per me. No, allora, no, non puoi riaprirla perché è crollato tutto, ma l'altra cosa che ti volevo dire era che, se, come avete notato, gli zombie non hanno passato la porta. Per cui ci stava in realtà di tipo fare diversivo, secondo me. È entrato dall'altra porta, però era sempre 12. Andiamo a giocare con noi a posto 10. Ah, tu dici, cioè rimanevano lì e esatto, intanto qualcuno entrava e rubava la roba. Esattamente. Ah, no, quello sì, però poi dopo abbiamo scoperto. Io lo volevo fare con anonimità, il discorso è che non passava. No, dopo anonimità non funzionava, né con gli zombie, no, né con... No. No. Dai, erano grandi le porte, ci passavi. No, erano bloccate. Anche se poi in realtà era abbastanza studiato per fare tutto così. Infatti alla fine avete fatto tutto tranquillamente. Vabbè, beh, comunque insomma, buone cose le abbiamo fatte, poi magari altre non le abbiamo... No, no, ci stava, secondo me. Vabbè, non è che potete fare tutte il 100%. Beh, comunque un po' di roba interessante. Magari non è quelle casse, c'era la mia spada magica. Va bene. Direi che devo andare. Sì, direi di chiuderla qui. Avete assistito al 18° episodio di Unstructured Heroes, leggende dal passato, giusto? Sì. Sì. E ringraziamo Laz, fatti vedere magari. Un pochino di più per la compagnia e i suggerimenti fuori tema a sfondo ironico e le prese per il culo. E vi ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Tycoons and Dragons e quella di RGDR su YouTube, ora sul canale RGDR, e sul podcast che è quello sempre di RGDR, e sul blog che è rgdr.wordpress.com. Adesso il momento più importante. E ora, vogliamo assistere all'esperienza qui o lo facciamo privato? Ormai hai salutato. Ho salutato. Va bene, ciao a tutti. E i prossimi appuntamenti ancora non li sappiamo, ma verso fine mese, non questo weekend, ma quindi quello dopo, è possibile... È il 27, non il sabato. Sì, non è così scontato, ma è possibile... che inizieremo Dungeons and Dragons, almeno questo è il piano. E detto questo, io vi saluto, e non so se gli altri vi vogliono salutare, ciao, o solo sbadigliare. A presto, grazie. Arrivederci.